Sai cos'è che io sta canzone la cantavo a scuola col flauto? La cantavi col flauto? Il culo anche. Esatto. La cantavo col flauto nel culo e dice che era bellissimo. Venivano delle cose. Io la cantavo nel flauto. Esatto. Però devi essere un po' più energico quando parli, Cusella, perché sennò. Ah! Ecco, un po' troppo energico. Non ti ha detto di prenderla al culo. Se no, il dugging ti cancella. Il papering. Esatto, il papering. Usiamo le parole italiane. La papera. Che non galleggia. Sì. Bravo. Ma quindi questa sera ci sta OGM. Ma sei sicuro? No, non credo, perché io non so, cazzo, cioè non c'è niente da dire. E allora che stiamo a fare tutti qua intorno? Infatti, non lo so, boh. A questa cosa, tipo un po' il focolare domestico. Non lo so, a me mi hanno detto che ci potevamo riparare la pioggia e mi sono riparato. Perché sta a fare la pioggia? È vero. La stavo facendo io la pioggia. Dorata. Molto bene. A posto così, eh? Bene. Dawn of the night, let's sing the bond. Tomorrow will take us away. Sometimes Io poi non ho mai capito una cosa, no? Ma questi qua che strillano, queste canzoni che strillano, ma poi è vero che c'era pure il demonio dietro, che tutti che la droga... No, c'è uno che gli strizza le palle da sotto per fare gli acutini. In realtà c'è il demonio di dietro, poi è per quello che strillano. Runtime Radio presenta Ottimisti genericamente mortificati. Oh, vabbè. Tutto a posto, tutto a posto. Bene, bene. Tutto a posto, perché mi distraggono, mi chiamano, mi evocano delle altre chat. Stavo abbassando il volume generale del computer per non far sentire. Abbassato il volume generale del cellulare. Ma abbassato il volume generale del cervello. Il cellulare non l'ho. Aspetta che lo faccio. E comunque benvenuti a tutti a Runtime Radio OGM Ottimisti genericamente mortificati. Con me c'è Marco Gualdi. Ciao, io per l'occasione ho messo il cellulare molto basso, bassissimo, non si sentirà proprio. Beh, molto basso. Alto, cioè talmente basso che potrebbe essere in un'altra stanza di un'altra casa. Non c'è, infatti. Ma c'è anche Walter Sbano. Sì, ma tu a chi sei figlio? Sì, figlio, infatti oggi è argomento di a chi sei figlio? Domanda a cui potrei rispondere, ma meglio di no. Eh sì, anche io tante volte avrei potuto, ma sarebbe stato... Buonasera comunque. Meglio di no. E poi, scusate. Fai così, dai. Andrà tutto bene. Non vedo l'ora. Ci non sono è successo niente. Momenti nella nostra vita dei quali, cioè, i quali entrano a far parte della tua quotidianità, ti abitui. Senti che quel qualcosa oramai fa cioè, parte dell'altro whisky, della tua quotidianità, della tua esistenza, del tuo vivere tutti i giorni. Ho bisogno di bere, non ce e, la poi, e poi arriva un momento in cui vanno via, prendono la loro strada, diventano grandi e non puoi fermarli. Simone Cusella. Sono un grande, ragazzi, sono un grande. Hai preso la tua strada? L'ho preso la mia strada. Che bello. L'ho presa. E dove ti porta questa dopo strada? Dopo rimettila a posto, eh. Beh, sì, diciamo che sono entrato nelle vite altrui, ma come tutte le cose che entrano, prima o poi devo anche uscire, quindi ho deciso così, di mia spontanea volontà, di cambiare ancora tutto da capo. Bravo, bravo, bisogna quindi cambiare. Quindi entri in seminario? Entro, sì, il seminario lo faccio. Entri in seminario? In seminario, sì. Lui in seminaria, sì. Capito, è la battuta. È onanista, nel senso che sì. Insemina in aria. Ma ragazzi, questa è una puntata fantastica dove parleremo di cose meravigliose, di scontrini, di buchi neri, di gente che rivoluziona la fisica quantistica. Che è tutto questo entusiasmo? Che cazzo sta a fare? Hai ragione, mi sono scordato che... Siamo mortificati. Ottimisti, però, ottimisti. Oggi però in particolare perché è un po' mortificato. Se no, Porello Simone, sembra quasi che non diamo peso... Al fatto che se ne va, ragazzi. Questa potrebbe essere, ragazzi, potrebbe essere, non sono sicuro, ma potrebbe essere l'ultima puntata... Che Simone Cusella è con noi. Perché... Facciamo così. No, ma facciamo che questa è l'ultima puntata. E basta. Fa così. Cioè, arbitrariamente. Nel frattempo, Sbano, so che ha il suo fantastico compito di salutare tutti quelli che sono in chat. Non so se ce la farò questa sera perché sono troppi. Abbiamo Michela De Paola, abbiamo Davide Gatti, abbiamo Lobby Frontali, abbiamo Rizzard, e abbiamo uno che rutta che non ho capito chi è. Chi può che è? Chi può essere? Il tanto va via. Tanto meno male che so, levamo dei coglioni. Oh ragazzi, no, volevo dire invece, accogliete con gioia la notizia, amici del fronte nord di Runtime Radio, ve lo rimandiamo! Ve lo rimandiamo, ma pure con l'interesse. Esatto, perché adesso oltre... Prendetemi al volo. Oltre al peggio menino però, che c'era in lui, adesso vi beccate anche il peggio di quello che però sono riuscito ad insegnarvi. Pensare, infatti, quindi vai Cusella, quello che ti abbiamo insegnato, meglio? No, vai, no, vai. No, fermi. È così, lui... davanti ai suoi amici farà uè, perché tutta una fega, è meglio un culo callo in panza o una panza, o una panza calla in culo, ah, eh? Lui no. Tac. Mi raccomando, insegna agli angeli dillo. A dire se è meglio un culo caldo in panza o una panza calda in culo. Vai. Ce la puoi fare, è meglio un culo callo in panza. Sì, vabbè, però potrebbe ancora andare. Un culo callo in panza, una panza callo in culo. Esatto. Alla quale domanda tu rispondi? Sì. A posto. che è sempre sì, meglio. No, scusa, quella era... ok. Ok, io tac. Vabbè. Sì, era un'altra domanda. Ma scusate, abbiamo chiesto ad Alexa se ha la risposta a questa domanda? No, glielo chiediamo. Tanto Rizzard si basisce del fatto che ritorni in polentone. Sono basilico anche io. Sì. Pure lui è basilico. E però purtroppo so cose succedono, so cambiamenti della vita, c'è cioè un momento in cui il successo ti reclama altrove. È arrivata questa ordinanza della sindaca. Sì, la sindaca di Monterotondo. Se la sorte ti è contraria, mancato ti è il successo, smetti di far casellinare, vai a piangere sul... Bella, questa non la pensa, bella, non bella. Pensa che non pensa. Non... Bella, ma non la sapevi? Dai, la sapevi, sì. No, no, io tante cose non so, di quale vado fiero anche di non saperle. Ma, comunque, dicevo, il successo, perché il successo? Perché Cusella, perché se ne va? Se ne va, cioè, quando te ne vai tu? Te ne vai quando hai trovato di meglio. Un calciatore lascia una squadra quando ha trovato la squadra migliore, giusto Cusella? Certo, è molto migliore. Migliore, vero? Certo. Quindi, perché se no saresti rimasto. Certo. Diciamo che lascio questa padella rovente per andare in un forno ancora più rovente. Ok. Una società che ti ha preso a piene mani e detto ok, adesso lavorerai questo nuovo gioco. Di Milano. Assassin's Creed Duomo. Ma senti un po', la domanda è seria, ma ti dispiace andare via? Beh sì. Un po', dai, un po' ti dispiace. Sì. Come fai adesso, non andremo più a mangiare il sushi insieme? Infatti quello che mi manca. I panini con la porchetta. Lo potrete mangiare in videoconferenza su Skype, ognuno dal suo all you can eat preferito. Giusto. Ci mettiamo il tablet davanti? Sì, facciamo la diretta su Twitch tutti insieme. Ma ogni tanto ci tornerai a trovare? No. Infatti no, è meglio. Costano troppi treni. Io volevo chiedere però ai nostri ascoltatori in chat se vogliono Cusella collegato da Milano il mercoledì sera. No, ma che c'è? No, ma già non parla quando sta qua, ma non è collegato, no. No, su Skype non prende tanto bene. Infatti, non funziona. Poi non si chiama Skype, si chiama Skype. Tac, figa. Bene, c'è anche Marco Gualdi, di qualcosa, Gualdi. Bello, bello. Che sei triste, sei triste. Sono triste perché adesso non gli do più affitto, non paga affitto. Non paga più affitto, no, certo. Esatto, ma così poi di punto bianco. Insomma, la vera tragedia l'ha vissuta il Gualdi dalla partenza anzitempo di Gusella. Sì, poi mi tocca rifare la casa, capito? Mi tocca rifare l'impianto elettrico, esatto. Che al divelto, ovviamente. No. Perché non ci sono più i giovani che si accontentano di vivere. Sì, Gualdi che è una persona timida, Pizzi. Il Gualdi è una persona timida e si vergogna di chiedertelo. Però io so che lui ti vorrebbe fare una domanda. A me, fai, fammi una domanda. Ma non è che al tuo babbo serve una casa? No, guarda, a mio babbo in teoria ce l'ha già una casa, ma se non fosse quella ce ne sta un'altra di casa, peggio, con le sbarre. Però dice se esce da una entra nell'altra. Esatto, quindi... dice però non se lo vengono a prendere, quindi non capisco bene. Però io invece voglio raccontare di questo bellissimo weekend che ho passato, perché voi sapete, no, che io ho già raccontato tantissime volte con Marco, con Walter in particolare, della mia difficoltà iniziale ad adattarmi a un paese come Monterotondo quando sono venuto da Roma. Poi dopo mi sono adattato tutto quanto e via dicendo. E adesso lui che va in giro a dire a chi si fiola la gente. esatto. No, non esagero, non mi sono adattato fino a sto punto. È quello che pensi tu. Diciamo, mi sono adattato perché sto dentro casa e non esco e quindi non socializzo, e questa è la cosa che migliora la cosa. E allora con Michela noi abbiamo fatto questo weekend, siamo andati a Genazzano e tu dici sì, ok, ma tu, scusa, per i non limitrofi spieghiamo dov'è Genazzano. Genazzano è vicino Tivoli, per capirci, no? Cioè, nel senso, provincia comunque di est di Roma, sempre nel Lazio. Tra l'altro tu arrivi a Genazzano, piccolissimo centro, con un castello bellissimo, cioè la parte medievale veramente bella, cioè incredibile, sembrava di stare una puntata del Trono di Spade, così, per dirne una. Sì, per dirne una, oppure Final Fantasy. Poi uno che passava e diceva: tu non capisci un cazzo, Jon Snow! Tutto così. Può essere, esatto, sì. Perché Jon Snow è quello che tu non capisci niente. Però è stato carino perché veramente il posto è caruccio. Solo che è più ti inoltri praticamente nella provincia, è più questa monte rotondizzazione, si amplifica praticamente. Cioè, quindi praticamente noi siamo arrivati. Prima di arrivare, mentre andavamo, ci telefona la tizia della locanda, diciamo, perché noi abbiamo preso... Cioè, dal locandiere, ovviamente. La locanda, tipo un bed and breakfast praticamente. Una locanda, non esiste il bed and breakfast. Esatto, è vero, hai ragione. Ma dove sei andato? A Frittole? La locanda, tipo, questa c'è il telefono e ci dice: ma a che ora venite? Che anti siete? Dove andate? E già, un fiorino. No, ma come, in che senso? No, perché sapevi a che ora venite. Vabbè, guardi, stiamo arrivando, fra una mezz'oretta siamo là, vabbè, allora tutto a posto. Arriviamo, c'era sta signora... che praticamente la prima cosa che ci dice: ah, benvenuti, ma com'è da ste parti? Com'è? Beh, ma te ne vai cazzi tua, gli hai detto. Guardi, noi domani volevamo andare... Ma tu hai cominciato a fare 18, e quella ha chiesto: ma perché conti 18? Perché sto a cantare la gente che se fa i cazzi sua, 19, e così. Esatto, bravo. Bella però questo, umorismo proprio da bombolo. Questo è Gigi Proietti. Allora, è precedente anche al Cavaliere Nero questa. Esatto. E vabbè, insomma, perché state qua? Dice, vabbè, non so, volevamo vedere il paesino e poi noi domani volevamo andare a Villa d'Este, stiamo vicino, passiamo a lui. Quando hai detto paesino ha tirato fuori il macete perché per Malosa c'è rimasto paesino, un cazzo ti avrà detto. No, la signora era nord europea, secondo me, tipo, non so se tedesca, inglese, non si capiva bene, però comunque non era italiana. From Blue, ma tipo, insomma, una cosa così. Ma pure gentile, cioè, adesso vi consiglio dove andare a mangiare qui. Ho però usata con latte? Prenotare, bisogna prenotare, questo bisogna prenotare, insomma, bisogna prenotare tutte le parti. Signora, vabbè, insomma, non potevo andare a mangiare, dovete andare un po' a fortuna. Vabbè, grazie, stava molto utile, signora. E alla fine, niente, non abbiamo trovato il posto dove andare a mangiare lì nel centro storico e abbiamo telefonato a una pizzeria che stava poco sotto, praticamente, nella parte nuova del paese, diciamo così. Andiamo, come entriamo? Ah, grazie, benvenuti. Sì, prego. Ma com'è che state qui? vabbè. Ma perché in realtà la domanda era: ma chi ve lo fa fare? Esatto, cioè, infatti, ma perché venite qui a Genazzano? Com'è la ste parte? E lì alla fine c'è un po', ci siamo un po' straniti perché dice: vabbè, ma dovreste essere con te. Se volete, noi ce ne andiamo. No, se disturbiamo, ditelo. E anche vaffanculo. Perché poi, insomma, poi tutto questo. Perché vaffanculo? Tutto questo poi è tornato. Cioè, su TripAdvisor. La cosa, insomma, chiaramente ne ha risentito TripAdvisor. Ha lavorato molto durante domenica scorsa. E vabbè, insomma, vabbè, dice, vabbè, noi volevamo mangiare, c'è un menù, dice, ma no, il menù qui, noi facciamo il menù così, guarda, primo, antipasto e primo, costa così, antipasto, primo e secondo, Michela mi fa, dice, sì, sì, pure il secondo, vabbè, no, mi faccia finire, mi faccia... Vabbè, ma... simpatia, vabbè, ma perché scusi, cioè, nel senso, ma poi erano... se lo interrompi, poi non riesce a riprendere il filo. No, erano signori, ma sono tutti gentili, cioè, devo dire, sostanzialmente assurdo, erano tutti gentili, però erano un po' strani, cioè già tipo un po' Twin Peaks, cioè, mi faccia finire, vabbè, finisca, cioè, no, se no c'è il menù, questo qui, tutto quanto è, vabbè, allora noi prendiamo il menù primo, secondo e... no, ma aspetti, perché c'è bruschetto. Dell'altro, dice, ah, perché no, no, no, no. Fa, dice, ah, ma quindi l'antipasto, vabbè, le faccio un antipasto di montagna classico, va bene, va bene. Arriva praticamente questo antipasto che era un pezzo di formaggio, un pezzo di salame, un pezzo di prosciutto. Non sto a scherzare, c'è Michela in chat testimone, no? E vabbè, che volete per primo? Dici, ci abbiamo le tagliatelle o i gnocchetti? Ah, beh, guarda, no, vi faccio un gnocchetto, che gnocchetti classico. Sono finiti. Così ti ho detto. No. Vi faccio lo gnocchetto classico. No, gli ho detto, guardi, e lì già strigna. Io prendo le fettuccine, non so se le prende pure Michela, magari io faccio Michela, prendi le fettuccine per non complicare le cose, perché già abbiamo capito, no? Cioè, no, no, gnocchetti. Aspetta, posso fare una domanda? C'erano altri avventori oltre voi? Aspetta, no, allora il locale era completamente vuoto, considera che era sabato sera. Allora vai a complicare la vita. Considera che era sabato sera, però poi c'era una tavolata di tipo 20-30 persone che da lì a poco sarebbero arrivati. Ah, e lì era veramente il trono di spade. Okay. Lì era proprio il trono di spade, perché era gente che palesemente s'odiava in maniera tra loro esplicita, proprio esplicita. E quindi tutta la cena, queste persone che si odiavano, è stato fantastico. E vabbè, io prendo le fettuccine al ragù, Michela prende i gnocchetti al sugo, non so che cosa, va bene, ok. A me arriva sto piatto di fettuccine alla cura, che veramente all'ospedale me le facevano meglio, erano bianche. Cioè il sugo sciacquato, io porca puttana dico, porca puttana, no? Ma che cazzo di lavoro? Ma tu non vuoi lavorare? Se tu non ma vuoi è partito lavorare, l'embolo. Ma chiudi, no? Cioè, triggerato. No, ma scusa, ma chiudi, cazzo? Cioè, vabbè, mangiata sta merda, perché veramente era una merda. Io, oh, capita, no, che tu vai nei posti che non hai mangiato benissimo, ma uscì da un posto che dico, porca puttana, quanto ho mangiato male... È raro, no? Però posso dire che forse Genazzano non è abbastanza lontano da Monterotondo per dilungarsi in questi epiteti. Secondo me, prima della fine della puntata ci citofonano, sai? Ah, può essere, sì, cazzi, ma anche... Ma noi abbiamo... E noi chiediamo, noi abbiamo... Perché da queste parti? Esatto. Perché? No, noi gli facciamo sentire il folklore locale. E chi diciamo... A chi si fiu? No, no, ma noi abbiamo scritto tutto su TripAdvisor, quindi già lo sanno, insomma. Quindi non è quello il problema. Ma... Comunque, vabbè, dice, vabbè, dopo aver mangiato sta zozzeria, mica io ho detto, senti, ha messo piattino dei pasta scondita, sciacquata, non è che mi piove pure il secondo, cioè, beh, più del secondo arriva una queste premesse avrei evitato, insomma. No, infatti, però no, siamo pieni, no, però c'avevo fame. Scusi, ma che c'è per il secondo? La carne. Ah, ottimo. No, cioè, nel senso, in che senso la carne? Cioè, sì, sai, quella cosa cotta. A braciola, gli arrosticini. Ah, gli arrosticini. Allora, Michele si è presa l'arrosticino e non si è fatto sta braciola. Che, regà, se avete presente quando tu cuoci una cosa sulla piastra che ha già cotto altre cose e c'è quell'amarognolo del bruciaticcio, del grasso, cioè, niente, raga, cioè è una cosa veramente indecente. Ed eravate i primi, io però comincio a sospettare perché a quei 30 dopo glielo devo al culo. No, ma poi quelli qua entravano, ma cosa sono di qua? Perché sono stati... poi, raga, io ho sentito parlare una lingua che veramente non pensavo che nel Lazio esistesse. Cioè, secondo me ancora... Il druido? Dei retaggi degli antichi latini, non so, qualcosa... perché uno ha parlato... tutti lo capivano, ma io non lo capivo, cioè veramente non lo capivo. Ah, la Yacht Test! Ma una cosa... Che poi mi guardavo, Michele, ma che ha detto? Fatti i cazzi tua, mi ha detto mia moglie. Ho detto, vabbè. Allora, sì, senta, ci porta il conto, perché noi andiamo, locale vuoto, a mezzanotte, sì, a mezzanotte, di sabato sera, quando sopra era tutto pieno, dico, c'era, cioè, lo dovevamo capire, insomma, che c'era qualcosa che non andava. E vabbè, ci porta il conto su un foglietto di carta. Però abbiamo speso 30 euro. 30 euro in due, primo, antipasto primo e secondo, con la bibita. C'era anche il dolce nel conto, no, tu non lo sai, no. Ma c'era. No, il dolce non... No, volevo dire che Michele in chat ci dice antipasto, tristezza. E ok, effettivamente cioè, corrisponde a quello che ci ha detto anche il Pizzi. Poi ci dice, a me sono arrivati gli spaghetti, che è una frase che però non capisco... Cosa voglia dire? Allora siamo contenti. Beh, una buona notizia, sono arrivati gli spaghetti. Perché forse avevo ordinato i gnocchi. No. Lei aveva gnocchetti. Lei aveva ordinato i gnocchi. Ah, ok, lei, gnocchi sono i gnocchi spaghetti. Ma perché erano etti, cioè etti, spaghetti, gnocchetti, capretti. E no, comunque veramente ragazzi, una cosa fuori da Twin Peaks proprio. Vabbè, comunque il giorno dopo ci svegliamo. Cioè, ma almeno, intanto sì, questo è un segno ottimista. Cioè, già dalla positività. Cosa positiva. Hai sognato, però potevi non svegliarti. Cioè, almeno, no, in tutto questo. Chi ha ucciso Laura Palmer? No, questo non lo sappiamo. Okay. Però siamo andati a questa locanda, ragazzi, che è proprio, era residenzialmente, sembrava una cosa molto, molto medievale. Un po' riallestita, diciamo, tipo sembrava una casa inglese del 1800. Una cosa veramente bella. Dentro... una pace incredibile nella stanza dove abbiamo dormito, con la finestrella un po' aperta, con l'uccelletti, cip cip cip cip, bello, scomodo, un letto scomodo, regà, che io veramente scomodo, è una cosa incredibile. E perché adesso tu ti sei abituato al mega materasso nuovo? Forse può essere, però io una cosa che non capisco, ve lo dico, tutti quelli che fanno in questo cazzo di mestiere, i letti matrimoniali con i due materassi, perché? Cioè, me lo dovete spiegare, io è una cosa che non... Perché poi li sdoppiano e ci fanno le doppie, regà, ma il letto è matrimoniale, cioè... No. No, non è, ma si scompone. Lo apri. Tu hai verificato che la rete era singola e i materassi. No, era proprio. Cioè, era un blocco unico il letto. Questo te voglio dire. Cioè, non era i letti ravvicinati, capisci? Cioè, nel senso, e allora hanno riciclati su quelli della nonna. Non lo so. Sono comunque, morti, una cosa. Abbiamo dormito malissimo. La mattina dopo, giustamente, qui concludo, ci svegliamo. Ah, che bello! Noi c'è una cosa che ci piace. Che bello che ce ne andiamo. No, c'è una cosa che ci piace quando facciamo queste cose con Michela, è la colazione. Perché tu vai a un bed and breakfast o vai a un hotel, comunque la colazione è la parte più, no? Ok. No, l'unica parte. Quando non riusciamo, c'è la signora che ci fa un attimo un agguato, esce fuori da una porta. Non ci siamo detti a che ora facevate colazione ieri mattina. E io ho detto, bene, infatti. Anche adesso, se possibile. Sì, infatti, non è, cioè, se mi date 5 minuti è tutto pronto. Tornate in camera. Ma perché, scusi, non posso stare qui, cioè, non vi posso far vedere i miei segreti, esatto. Ecco, dietro la lavagna torniamo in camera, dopo 5 minuti riusciamo, proprio 5 minuti di nulla, stavo io lì con l'orologio, riusciamo, c'era apparecchiato, c'era... perché scusa, adesso la Pizzi la sta prendendo un po' a ridere, ma io mi immagino, no, le bestemmie, esatto, la pentola dei fagioli, no, che era in lui, no, questo. No, devo dire che in altri casi sì, ho bestemmiato di più, stavolta ero comunque rilassato, quindi alla fine, cioè, tu che vuoi, cappuccino, vuoi il caffè, ok, il burro, le marmellate, le cose, cioè, ho fatto due cornetti, uno semplice e uno con miele, ma pure questo, perché? Forse quelli aveva. Esatto, penso anche io. Cioè, nel senso, fammi scegliere a me quello che mi devo da mangiare, no? Cioè, nel senso, ma anche perché, diciamo, un posto ben organizzato non è che ti dà le cose contate di numero, ti dà un cestino con tre, se siete due persone, tre, quattro cornetti, perché uno magari può volere una colazione un pochino più abbondante, può voler scegliere varie proposte, però insomma sì, vabbè, fermo restando che la mattina a far colazione eravamo noi, la signora e la diva, però polizie, insomma mi pare di capire che questi non siano particolarmente avvezzi ad accogliere avventori, probabilmente perché non è proprio il turismo, non è proprio il core business, no, è un po' di strano, sì, ma perché insomma siete qui? Perché poi la mattina dopo ce l'ha ripetuto e quindi poi non mi fido, che dovete fare? Tra l'altro, se non mi sbaglio, forse ce l'hanno chiesto pure quelli del bar dove abbiamo fatto l'aperitivo, perché cioè, ma com'è che voi dovete rispondere? Ah, signor, se dobbiamo batter bancomat, adesso che te rispondi. Non lo so, cioè, però... ah, poi tra l'altro, vabbè, manco vi dico quando siamo andati a pagare, no? Perché dice, ah, guardi, 60 giusto, fa la signora, no? Perché io, se il prezzo nostro è 60, dice, sì, ma noi abbiamo preso, con Michela gli fa, dice, forse era 58, 59, no, possibile, perché io faccio sempre conto paro, fa, dice, vabbè, poi sono andati a vedere sulla mail, no, vabbè, ma verifichiamo, no? Ma tutto con gentilezza, tranquillo. E alla fine era 45, perché l'avevo preso col Genius, col coso, col Booking, roba del genere. E ci è rimasta malissimo, cioè, ci è rimasta malissimo. Poi datemi i cognetti, Latern! Michela voleva pagarla col banco, pagare col banco, ma non te lo dico, lo sguardo obbligato. Te credo, ma già pago poco, mi togli pure. A quel punto Michela ha capito che era il caso di tirare fuori i pezzi delle carte. Perché a me non può denaro, fa io lo fa, insomma, cioè, questi poveri disgraziati. Vabbè, questo insomma è stato il mio weekend. Allora, se vuoi ti rilancio il mio. Voi perché... dirti. Allora, io sono stato invece a Bari. Con l'occasione di salutare degli amici, eccetera. Ma perché sei andato a Bari? Chi me l'ha fatto fare? Chi l'ha fatto a Bari? Va bene che è un piccolo mare. Esatto, se Parigi avesse l'umere sarebbe una piccola bere. No, devo dire, era l'occasione per risalutare vari amici, eccetera. E non era la prima volta che andavo a Bari. Il discorso è che siccome è stata una cosa organizzata un po' all'ultimo momento e anche, diciamo, in tra virgolette ristrettezze, ho cercato quello che era il pernottamento in B&B più economico possibile che trovassi tra Booking, Hotels, eccetera. E ne ho trovato uno che sembrava sufficientemente dignitoso a 35 euro una notte. Preso, andati. C'erano le chiazze organiche, no, spazio, l'appartamento l'appartamento era in pieno centro di Bari. E un che piano, è la parte più pericolosa. Un piano Rione Libertà, non Bari Vecchia. Comunque, diciamo, un piano terra discreto, con qualche difetto di umidità, ma niente di particolare assolutamente. Se non che io non avevo letto una postilla piccolissima, che poi dopo ho visto che effettivamente c'era scritta. No, semplicemente io ho pagato l'alloggio 35 euro a però Hotels. C'erano gli occhi. C'erano 20 euro di pulizie per una notte. No, dai, questo... Quindi alla fine ne ho pagati 55. Queste sono le zozzate, però. No, ma il discorso è che non posso neanche obiettare, neanche come dire, obiettare qualcosa a Hotels, perché effettivamente c'era scritto piccolo in basso, ma c'era scritto. Quindi non è neanche un abuso dell'esercente che per cercando di fare del nero al sistema di prenotazione c'era scritto. Anzi, addirittura c'era scritto 20 euro a persona per diciamo per tutto il soggiorno, quindi in teoria per una notte sola sarebbero dovuti essere 40 euro. Al che, quando me ne sono accorto, ho detto al tizio: scusa, fammi capire, io ti dovrei dare 40 euro di pulizie per una notte su 35 di appartamento? Dice: no, perché è scritto così? No, 20 euro in tutto, per tutti e due. E vabbè, e diciamo che, come dici, ci siamo venuti incontro. Però comunque 20 euro per una per le pulizie di un appartamento che già non era in perfette condizioni e che comunque io, a parte sporcare le lenzuola e la biancheria per farmi la doccia, non ho fatto. Adesso di che cosa l'hai sporcata? Sporcare nel senso che le usate. Non è che viene il giorno dopo. Io le avrei sporcate prima di andare via. Torniamo un attimo in camera a sporcare. Scusi, ho dimenticato una cosa in camera. No, in realtà il cimulivi è il culo. Esatto, diciamo che l'istinto di cagarli sul fornello a induzione ce l'ho avuto un tratto, però vabbè, dai. Vabbè, dai, ripeto, anche colpa mia che non avevo letto le piccole postille. Anzi, sortiamo i nostri amici. Ragazzi, quando prenotate con Booking, con Hotels, con qualunque sistema, leggete sempre le cose scritte in piccolo. Oh, tra l'altro volevo dire che non c'entra niente. Oggi c'è la partita di Champions League da Ajax, c'è Ajax Juventus, per cui io nell'occasione, se ci sarà qualcosa da dire, entrerò a gamba tesa come Tonino Canino da Ascoli e vi dirò i risultati. Invece guardi tu il weekend che hai fatto? Ho farmato. Hai fatto armare? Ho farmato, ho viaggiato per migliaia di anni luce nella galassia. Bello. Voglio giocarci anch'io a quel gioco. Potresti farlo, ma poi imploderesti dentro qualche buco nero. A proposito del buco nero. Buco nero. Finalmente, signore e signori, abbiamo visto, la NASA ci ha fatto vedere com'è un buco nero. Avete visto? Guarda, la io... La NASA ha scopato. No. Io penso che se ne sono visti già tanti dei buchi neri. Sì, ma quello, no, ma quello che hanno fatto vedere loro è bellissimo, cioè proprio lo vedi che è un buco nero, cioè bellissimo. Tu l'hai visto, Pizzi? Sì, ma è sfocato, non se ne è niente. Vabbè, sta lontano, quello è Sagittario, insomma, è il centro dovrebbe essere quello al centro della galassia. Addirittura, quindi quello proprio più grosso. Il buco super nero, super massiccio. Buco nero. Sì, quello lì. Bello, ma tutte cazzate, ragazzi. No, guarda, questa è scienza, questo è quello che dice la scienza. Noi siamo scienza, non fantascienza. Del resto, il palcolor l'abbiamo inventato noi. Questi erano bei tempi. Il tizio con gli occhiali, con i raggi di dietro, e si levava gli occhiali. Ma noi siamo scienza, non fantascienza. D'altronde, il palcolor l'abbiamo inventato noi. Brutta fine che ha fatto Telefunken per essere quelli che hanno inventato il palcolor. Sapete che adesso il marchio Telefunken è di proprietà di un'azienda turca. Mamma di Durki. Quindi se comprate un televisore la pernigotti, se comprate, esatto, se comprate un televisore Telefunken al supermercato perché è Teleturken, esatto. Quindi pensateci, vabbè, pensateci come è comodo che adesso è marchio italiano. Cioè, c'è in realtà c'è ci sono delle cause in atto perché non è ben chiaro se avessero il diritto, avessero quelli che hanno rilevato questo marchio, peraltro ci hanno speculato per fare uno smartphone. Non so se ve lo ricordate, sì, il pet. Sì. Esatto, poi da lì ci sono la ciofecata cinese. Sì, in realtà il classico cinesino brandizzato. Tutti i giorni. Sì. Ti piacerebbe. Comunque, non dica. No, li fa, fidati. I pet? Peta in continuazione. Ah, comunque non è vero un cazzo questa cosa dei buchi neri, lo spezio piegato. No, perché tu perché? Musella, ma è già stato dimostrato. Chi? No, non è stato dimostrato. Lui l'ha già dimostrato. Lui ha detto proprio io. Lui. L'ho dimostrato io, capisci? Testuali parole. Gusella, se mi riagevoli il contributo, io. Cioè, il contributo video? No, solo il test, peccato. Ho già dimostrato che la relatività è sbagliata e le equazioni di Maxwell sono sbagliate. Tra non molto darò una chiave di lettura differente. E questo... Attenzione, lo ha detto Alessandro Ratti. E chi è? No, andiamo a cercare, indaghiamo in tempo reale per capire questo Alessandro Ratti, chi è. Dottor, immagino, certo. Alessandro Ratti. Sì, no? Sì, dottorissimo. Professore anche, no? Giusto? Dottorando. Penso che Sbano lo conosca bene, no? È un cosmologo, no? Giusto? Ti devo conoscere io? Alessandro Ratti. Un cosmologo. Sì, proprio. Amico dei razzi, penso, insomma. Probabile. Quindi no, indaghiamo in tempo reale. Allora, lui possiede questo sito alessandroratti.com, del quale? Fatto con Blogspot, con ancora lo sfondo predefinito, WordPress. Vabbè, ma la verità non ha bisogno di orpelli. Hai ragione, io sono d'accordo su questa cosa. La fisica della materia e dei suoi errori. Devo, se mi permettete, dovrei sparare un bell'asset dalla regia perché per una cosa per Davide Gatti, che per una volta mi tocca sfregiarlo. Vai. Fatto niente, comunque non hai fatto play, lo rifacciamo adesso, ci riproviamo, attenzione, la regia è sempre coordinata e non si sente, non si sente perché è una merda, forse perché... perché forse ci sono, c'è il canale del mixer spento, eccolo, vai, pimpalo. Potevamo stupirvi con effetti speciali e colori ultra vivaci, ma noi siamo scienza. Basta così, ma noi siamo scienza, non fantascienza. Del resto il Palcolor l'abbiamo inventato noi siamo Telefunken. La nostra filosofia è una qualità costante nel tempo. Mamma mia, che bello. Telefunken, qualità costante nel tempo. Un applauso. Bravo, bravi. Vive Durki, viva Orban. Esatto. Io andrei a cercare anche un bello spot della Seleco, dato che pure quella quella è ricicciata fuori, eh. Ma tu lo stai facendo per motivi sportivi? No. Quali sono però? Spot Seleco anni 80? A Seleco, sì, dai. Non me li ricordo però. Cioè, non mi ricordo neanche io. Ah, però, ecco, sì, quindi magari non ci so. Ci sono sicuro. Ma pure da Autovox, vi ricordate Autovox? Sì, Autovox. Cioè, non mi ricordo tutti questi marchi, ma spot sparati in televisione come Telefunken, no. Forse sparati in televisione, forse non più radiofonico. Però se volete vi mando quello di Radio Marelli TV Color 100 canali. Radio Marelli. Vai, manda la Radio Ravanelli. Beh, metti la Radio Ravanelli. Buonasera, è finita la guerra dei canali. Radio Marelli, famosa per la sua tecnologia d'avanguardia, presenta il nuovo TV Color che può ricevere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 53, 54, 55, 56, 100 canali, tutti i canali di oggi e tutti quelli che verranno domani. E se li cerca da solo con il comando a distanza, Radio Marelli 100 canali. Se li cerca da solo, a casa vostra. Lei, Radio Marelli. Se li cerchi da solo. No, ma poi che cazzo. 100 canali in un'epoca in cui praticamente c'erano i due canali Rai, fine. Esatto. Però, infatti lui te lo dice. Quelli di oggi e quelli di domani. Ci saranno un futuro. Siamo già pronti per il terzo canale. Bravo. Veramente Radio Marelli, la tecnologia d'avanguardia. Eravamo avanti. Basta. E che mi piace l'intro, scusate. L'intro ti piace. Giustamente Rizzard ci dice qualità costante nel tempo, ma il tempo è relativo. Esatto, quindi è un po' un paradosso. Però, forse per quello che sono falliti. Ma la relatività è sbagliata. Sbagliata. Ratto là ci dice, Ratti, come cacchio, ci dice che sì, è sbagliata. Intanto il buon Davide Gatti ci ha mandato quello di Brion Vega. Ah, Brion Vega. Madonna. Vogliamo mandarlo? Vai con Brion Vega. Ma dopo voglio sapere. Mi piace l'andazzo che ha preso la puntata. Dopo voglio sapere la verità. La verità la voglio sapere. Sì, poi torniamo al bucio nero. TV Color Brion Vega. Brion Vega. L'antenna che vi segue fedelmente in tutti i canali. Cioè? Che vuol dire? Questa è una frase che non vuol dire niente. La massima fedeltà anche nel suono. Tutte le funzioni possibili, pronte per il futuro. Futuro, TV cioè. Color Brion Vega. C'è sempre questa cosa. Quello che gli altri avranno solo domani. Brion Vega. La tecnica nella sua forma più bella. Mi fermo qui perché il video che ci ha mandato Davide dura oltre 5 minuti. No, ma cioè, la cosa bella c'era sta fissa il futuro, pronto per il futuro che gli altri non c'hanno. E vabbè, sono cose. E niente, ragazzi, tocca sparare a Però te posso fare una domanda? Sta citando tutti i marchi degli anni 80. Vabbè, non ne frega niente, quella è un'altra trasmissione. Vabbè, te faccio una domanda, tu che sei più tecnico. Secondo te, no, un televisore negli anni 70 che ha tutte le funzioni pronte per il futuro, che significa? Che c'è l'HDMI? Cioè, che cosa so le funzioni? Che funzioni so, c'ha sto televisore? Ma quella era la bravura degli autori dell'epoca di non dire un cazzo con delle parole che ti fanno sognare il futuro. Che era un super cazzo l'Antelitram. Anzi, no, neanche Antelitram, perché Amici miei è di quegli anni. Quindi era una super cazzo l'altro. E basta, è una super cazzo. Io ho tutto ciò che serve per oggi, ieri e domani. Esatto. Che c'è il cazzo? C'è un cazzo. Pensa a quello che ha fatto la pubblicità dell'ultimo televisore in bianco e nero dicendo il televisore di domani, poi il giorno dopo è arrivato quello: oh, noi l'abbiamo fatto a colori, C'è ancora gente che fa film in bianco e nero. Come potreste vederli meglio se non su un televisore in bianco e nero? Certo, perché il nero deve essere ben saturo, ben calibrato. Bianco, ben bianco. Comunque c'avevo il telefunken a casa. Ce l'ho avuto anch'io. Quando da bambino mi hanno regalato il Commodore 64, assieme a quello mi hanno regalato un bel Palcolor da 14 pollici della telefunken. No, scusa, Gualdi, che c'avevi tu? Emerson. Che è un giocatore brasiliano. Fittivaldi? No, l'Emerson. Il pilota? Tu che c'avevi? Io avevo Lake. Chi? Io avevo Lake. E io c'avevo il Palmer, così. Bravo, esatto, l'hai capito. Emerson. C'è, giuro, c'era un Emerson. No, è durato tipo 20 anni. Forse mi ricordo io. Ah, vabbè, quello sicuro, pure il nostro. Cioè, al massimo è venuto un paio di volte il tecnico. No, il tecnico veniva a cambiare le valvole. Ragazzi, c'era sempre la valvola. Io ho questo ricordo bello del primo televisore di casa. Quando ero piccolo, avevamo l'unico televisorone che era questo casermone pesantissimo che era in cucina. La Miva. Ma la cosa bella di questo televisore era che praticamente il televisore, grazie al fatto che mio papà aveva un amico che era un tecnico molto bravo in queste cose, ogni tanto subiva una mutazione, tipo come fosse un Frankenstein. Negli anni gli ha aggiunto tutta una serie di funzioni, tra cui il telecomando. Il televisore nasceva in un'epoca in cui il telecomando non c'era, aveva la sua cassettina per regolare la sintonia di ognuno dei 16 canali e 16 pulsanti. Lui gli ha sfilato quella, ci ha messo un sensore a infrarossi e ce l'ha fatto funzionare col telecomando. È una cosa bellissima. Io vorrei ricordare una cosa che, allora, non tutti negli anni, alla fine degli anni 70 c'erano il televisore a colori dove invece mi ricordo i miei si erano appena sposati, quindi era un regalo di nozze. Allora mi ricordo sta questione del in classe, cioè un amico mio, cioè mi ricordo andava in onda Pinocchio, proprio quello di Comencini, esatto, la prima versione della cosa. E a me mi è arrivato il televisore a colori a casa. Io ho il televisore a colori. E come si vede? A colori. Giustamente. Ma noi, perché eravamo abituati, una volta a me mi avevano già fregato, quindi, cioè, nel senso, ero paraculo. Mi avevano già fregato perché avevo detto: ah, vieni, ma a me io mi annoio dalla signora lì perché madre è andata a qualcuno. Ma no, dai, gli ho detto che c'è il televisore a colori. Il televisore a colori, voi non lo sapete, ma alcuni c'erano il televisore piccolo, quello in bianco e nero, con lo schermo davanti, cioè una mascherina colorata, cioè tipo. Sì, l'ho sentito dire. A strisce. Aggiungeva tipo un terzo colore a caso. Ma no, cioè in realtà erano le strisce colorate, cioè nel senso sopra era giallo, sopra nel centro era rosso. E quello era un modo di caratterizzare. Ma che cazzo. Ma comunque è un po' come, che ne so, le mascherine. Se mettevi davanti la carta velina colorata, era colori. Se ne va, regà, se ne va. Se ne va, ricordati che se ne va. Comunque, noi dobbiamo avere notizia di questo Ratti. Dobbiamo sapere la verità. Ratti, sì, la verità, la verità sulla relatività. Allora, pagina Facebook. Stai visitando la mia pagina per capire chi sono e valutare quello che dico? Meglio il contrario. Questo è il modo in cui si presenta. Cioè, sono io che visito voi per valutare cosa sono e cosa... Vabbè, interessante. Sì. Boh. Poi dice, anche Focus è complottista e terrapiattista? Oppure le persone si dovrebbero svegliare e capire che certe teorie del complotto non sono solo teorie, ma sono un complotto. Anche quelle, esatto, cioè, sono un complotto loro stesse. Esatto, sì. Mamma mia, cioè questo proprio... Dai, continua, continua. Aspetta, ci interessa. Poi vabbè, relativamente alla foto del buco nero, in inglese, perché lui ovviamente è un importante... Salilingue, certo. Che ah così, no, anche in italiano. Che così, okay, le figure del merda le facciamo pure a livello, esatto, internazionale. Se passa Jim Carrey, sono cazzi sua. Scusate, ma a parte le testate giornalistiche, chi ha detto che la foto del buco nero conferma le teorie di Einstein? Ho già dimostrato che le teorie di Einstein sono sbagliate. Oltre alle equazioni di Maxwell, mi toccherebbe dimostrare... che anche questa interpretazione dei fatti è sbagliata. Ragazzi, io non ho mai capito un cazzo. Ma io dico, ma uno così, nessuno gli ha mai chiesto scusa, perché stai qui su Facebook invece di far illuminare l'università? Ma infatti c'è il complotto, c'è la teoria dei complotti, perché che non glielo fanno fare, insomma, svegliatevi, come dice Giusto. Oggi per fortuna però c'è Facebook che permette a chi ne sa di più, esatto, di avere un canale per esprimersi. Esatto. Il canale che hanno tolto a Mussolini, visto che hanno tolto, hanno segato. No, ragazzi, scusate, ma mentre tu cerchi, Simone, no, tra l'altro Facebook hanno chiuso un sacco di... Non so se hai una musica adatta per questa cosa, e non so se hai seguito questa notizia. Non so neanche quale sia la cosa. Esatto, se non so la cosa. Ma voi sapete come si chiama l'ultimo candidato che il partito della Meloni porta... Il pronipote del figlio di Mussolini. Non anticipare, sì, però come si chiama il candidato alle europee che vuole portare Fratelli d'Italia? Io l'ho letto, quindi non è, cioè, se ce lo domandi a noi... Già... Caio, Giulio, Cesare, Mussolini. Tizio, Caio, Sempronio, Giulio, Cesare, Napoleone. E la cosa bella è che nel manifesto elettorale ha avuto il coraggio di scrivere per la storia. Per la storia, certo. Io ho visto la fotografia però a testa in giù, non so se... Sì, sicuro gliel'hanno girata. Però, cioè, però voglio dire, ragazzi... Cioè... Ecco, qua ho trovato veramente l'apice. Vabbè... Finite. No, vai, no, è finita. Che altro vuoi dire? Secondo me è un po' come il tizio. Ma io lo dicevo tempo fa. Quando, però, comunque, il tizio, questo qua, è un po' tipo quelli là, gli scienziati che dicono che i terremoti ci stanno perché i negri stanno a venire dall'Africa in Europa e l'Europa è più pesante, no? No, stavo dando indicazioni. Vai, certo, allora, sì, in diretta. Poi, questo... sì. Ha pubblicato sul suo coso Facebook la sua dimostrazione contro Maxwell, no, Michelson e Morley, vabbè. Ma il video è questo, Romano Amodeo? Esatto, quello dopo, quella è la perla finale. Allora, c'è uno che ha scritto, ma come, mi cancelli i commenti e il contraddittorio, vabbè. Praticamente si sono insultati, lui si è incazzato e li ha cancellati. Ma se tu non contesti, insulti e basta, vabbè. Te li ho contestati più volte, ma non sei in grado di comprenderle quanto pare. Vabbè, basti vedere che la tua critica è errata, ma non è che hai abbandonato da quanto ho letto. Non perdo più tempo con la presuntuosa ignoranza umana. Vabbè, questo è uno che non sta più bene proprio. Ma che forse non l'è mai stato. Non c'è mai stato bene. Questo è un po' un tipo che noi una volta, se ci riusciamo, ci abbiamo le palle, perché qui si tratta di averci le palle. Ve ne portiamo uno, regà, che altro che questo, eh? Questo scrive libri in continuazione. Poi... Comunque è sparito da Dario, eh? Poi è sparito, è da qualche settimana che questo qua continua. Forse agli alieni. Continua, sì. Ma io ti dico le cose, tu non mi dai retta, non capisci. Ah, bello, vedi che gli errori concettuali li hanno fatti gli amici tuoi, non io. Cioè, questi mille scienziati hanno sbagliato, io sono l'unico che ha fatto le cose giuste. Questo proprio... Vabbè, così. Vabbè, è un po' come mio padre, non è che è tanto diverso. Forse cioè, è tuo padre quello. Può essere. Ma guarda, mio padre perché dei buchi neri ne capisce poco, ma sennò, no... Preferire i buchi di tuo padre. Dei buchi ne ha fatti. Sì, buchi veramente tanti ne ha fatti, sì. Vabbè, cose che succedono. Vabbè, invece... Io mi sono comprato la maglietta. Ma l'altro contributo lo volete mandare o no? Questo vai, sì, giusto per concludere ufficialmente. Okay, scusa, questo è un altro, illuminato. No, esatto. Io togliere la base? Vai. Toglia. Apocalisse Albertino, se sei il Cristo, come intendi procedere per assolvere i compiti assegnati da Dio? Precisando che in me si sono incarnati Padre e Spirito Santo. Ah, io mi sono iscritto a questo. E che il Figlio è subentrato con quel miracolo della Madonna che ti ho detto. Un miracolo della Madonna? No, infatti, non ho capito se è della Madonna o è della Madonna. È molto schematico. Scusi. Uno. Poi si gira a un certo punto. Dimostrare. Perché sta leggendo. Dimostrare scientificamente. Okay. Insegnando ai sapienti. Ai sapienti. Con la loro sapienza. La sapienza. Certo. Uno. Okay. La capisce. Che vive solo Dio. Sì. Solo lui. Ogni essere secondario di questa terra non è altro che l'essenza di Dio che si incarna nelle rispettive situazioni. Tutte quante. Che vuol dire? Che significa? Ora, a parte che voi non lo potete... che c'è l'acqua, io sento l'acqua che scorre. A parte che loro, gli amici non possono vedere le immagini che noi stiamo vedendo, grande buffo. Ma a parte no, il tizio sembra Marco Polo sulle mille lire. Sì, un po' sì, è tipo Eremita. È arrivato a credere con dei filosofi che Dio è morto. Sì, ai bordi delle strade di Roma, lo diceva pure Puccini. Questo ci ricorda qualcosa, Pizzi, ma forse erano i nomadi, però vabbè. E lo devo dimostrare scientificamente. Giusto, erano i nomadi. Vabbè, io mi fermerei qua perché ho fatto 32 minuti di video. No, io sarei ore e ore a sentire. O se no, lasciamo lui e noi ci andiamo a bere una birra. L'ho detto, sì, ma non è. No, sono qui già lui un po' di tempo fa. Apparentemente questo qui l'avevo beccato perché così me l'aveva proposto YouTube. E anche questo aveva tutta la sua fisica alternativa perché quelli hanno sbagliato, non capito un cazzo. Io ho capito tutto. Beh, c'è Pietro l'Eremita, quello che ho condiviso io l'altro giorno, che pure lui fa tutti i discorsi sull'illuminazione, cose. Poi a un certo punto va, dice, perché a te te vengono a dire che l'uomo è fatto de molecchelo e invece non so manco ricordo come cazzo ha detto, ma è Dio, capisci, Dio e sono questo, tanti l'uomo è fatto de merda, ecco, posto. Risorto il problema. E comunque alla questa qua faceva radice. Tutti questi video di fisica in cui gli altri non capivano niente. Poi da un giorno all'altro ho iniziato a fare video religiosi in cui si diceva figlio di Dio. Leggi quello che ha scritto Lobby Frontali. Forse Padro e Spirito Santo sono metafore delle sue unghie dei piedi. Questo spiegherebbe il concetto di incarnato. Bravo. Così dovete essere. E vabbè. Dice Davide Gatti, sembra una supercazzo lunga 2 minuti. No, lunga 32 sì, se sì, la volete vedere. Ma poi centinaia di video. Voi non potete capire, ma io me li seguo questi, cioè mi seguo le limiti, mi seguo quelli alieni. Io li seguo tutti perché devo capire dove arrivano, perché io Simo, ma che vuoi capire? Cioè non c'è niente, purtroppo non c'è niente da capire. No, io cioè... voglio capire perché secondo me è autoreferenzialismo assoluto, no, non è altro. Per me è, come posso dire, è quasi una recriminazione a me stesso, perché io studiando questi fenomeni, come ho detto tante volte, potresti diventare come loro. No, da giovane avrei potuto, quando la gente, cioè nel senso quando facevo politica, capito, la gente mi seguiva perché parlavano. E ho detto, perché non fondo una chiesa? Poi ho detto, no dai, poi sono troppo onesto, io queste cose non le faccio. Invece oggi me ne pento. Potresti scrivere un libro e chiamarlo Battaglia per la Terra dopo, già che ci sei. Esatto, sì, esatto. No, però ci sto ancora pensando a questa cosa. O Battaglia per la Radio, probabilmente sarebbe più interessante. Vabbè, però mi scrive, c'è un posto a Corcate già pronto per lui. Sì. Anche a Sucate un po'. No, corcate ci vuole. Anzi, dovremmo... rinviare il contributo del professor Pippo Campo. Che credo dovrebbe tornare da quella serie di convegni all'estero a breve, esatto. Speriamo che lo stiamo aspettando. Esatto. Ma talmente all'estero che non manco il telefono che funziona. Vabbè. Ma sai che potremmo anche avercelo in diretta? Sarebbe una... fisicamente proprio qui con noi. Perché, tu domandi, come può essere esteticamente... fisicamente, no? Cioè, nel senso, che aspetto può avere? Secondo me è proprio un Pippo bel Campo. Figo, alto. Secondo me ha due alluci. Tutti insieme? No, ma sono incarnati. Sullo stesso piede? Potrei, no, questo non, insomma, non mi posso sbilanciare così tanto. C'ha due alluci? E vabbè, vale per tutti, scusa. Però ce li ha gli alluci. Hai i pollici opponibili sui piedi. E quindi costruisce le cose coi piedi. S'arrampica. Bello. Però praticamente non è che quando si ferma a dormire gli devi costruire un ramo posticcio per esatto, dormire. Esatto. Esatto, infatti io lo ospiterò e non so adesso. Sono rimasto in piedi. E poi quando vedrà il cavallo, che dirà del cavallo? Cavallo goloso, dirà. Esatto, esatto. Vabbè, ragazzi, invece vogliamo un attimo andare al temino che ha dato un po' il titolo alla puntata, perché ragazzi, ma ti posso dire che c'ho una maglietta nuova io? Te lo posso dire così, certo, poi sì, ma è fascia. Cioè, perché io ho la maglietta nuova che dice Marino sindaco subito, proprio perché insomma volevo così, cioè, continuo a sostenere questa tesi da anni. Allora, cosa è successo? È successo che la Cassazione alla fine ha assolto per quella faccenda degli abusi, degli scontrini, come era ovvio, l'ex sindaco Marino. E ora ovviamente è partita la perculatio, ovviamente i meme che insomma adesso si rivolgono a chi è arrivato dopo, quindi all'attuale governo Raggi, come per dire: oh, ha visto per due scontrini, ma guarda te invece che stai a combinare di qua, che stai a combinare di là. Però c'è da fare un ragionamento, secondo me, al di là del fatto che chiunque non viva sugli alberi si era reso conto che Pippo Campo che fondamentalmente la questione scontrini era assolutamente pretestuosa, il PD ha voluto forzare la mano per far dimettere Marino per altri motivi sui quali potremmo fare, diciamo, dietrologia fino a domani mattina. Potremmo fare 100 video spiegando questa cosa che solo noi abbiamo capito, però esatto, però sostanzialmente il motivo per cui Marino è stato spinto alle dimissioni, sostengono oggi i vertici del PD per giustificare il loro operato di 2 anni fa, era che Marino stesse governando male la città e che quindi si sarebbe dovuto dire, cioè è stato necessario farlo dimettere per quel motivo. Beh, il PD inqualificabile. Beh, su sta storia. Ora io voglio dire, ma cioè, uno, ce l'hai messo tu. Due, l'hai scelto apposta perché nessuno di voi dentro il PD si è voluto prendere la rogna di governare Roma. Dopodiché lo bruci come un prospero, perché? Perché probabilmente qualcosa che doveva essere non è stato. E poi cosa fai? Ci consegni la città nelle mani del governo Raggi, che per quanto possa aver fatto male Marino, io ci rimetterei la firma a questo punto. Sindaco subito, adesso proprio. Anzi, lui aveva levato tutta una serie di zozzerie in giro per Roma che la Raggi si è giustamente guardata bene, preoccupata, insomma, di rimettere immediatamente, insomma, tanto per capirci, insomma. Quindi no, ma Marino fa mercato? È stato il primo, secondo me, vittima di un sistema di fare comunicazione basato sulla merda, sulla beceraggine, sulla falsità, sulle fake news. E la gente si avvelenava: ha visto Marino, io entra, non paga le multe, ha visto Marino fa... Ma io dico, ma anche se puta caso uno una volta possa aver fatto, ma cioè, questo secondo voi veramente tutti i giorni fa ste cazzate perché così voi possiate dire che lui fa ste cazzate? Ma ragionate un pochetto, no? Perché poi dopo io continuo però a sostenere una cosa, perché Marino risultava, diciamo, in quegli anni, ora guarda caso non si parla più di lui in nessun modo, però in quegli anni risultava essere, diciamo, avere un trascorso accademico di una certa importanza, pare fosse un luminare della chirurgia. Poi alcune cose sono state più o meno smentite, non ho poi approfondito fino a, diciamo, più di tanto, però io in quel periodo lì mi sono chiesto quasi ogni giorno della mia vita, ma chi gliel'ha fatto fare a uno che dovrebbe essere un luminare della chirurgia di smettere di salvare vite per andare a fare il sindaco di Roma? Questo lo devi chiedere al dottor Gatti, io potessi pure chiedere a Tria, Gatto, chi ti ha fatto fare? Gatto, ti posso rispondere io che lui si è buttato in politica quando è in pensione da primario di chirurgia all'ospedale, sì, non però è che l'ho fatto prima. Vabbè, però comunque lavorava sempre nelle cliniche, lavorava ancora, privato, quindi non insomma, dai. Ma è Davide Gatto? Esatto, Davide Gatto, Davide, sì. Gatto. È il padre. E occhi di gatto pure un po'. Ah, ceppa di gatto. Sì. Comunque... Però, ma ceppa il gatto dov'è? No, ceppa è morto. Sì, sì, per dire, però faceva rima. Mi sa che è rinchiusa di là. Oggi il gatto non ha manifestato il suo affetto a Gusella. No, anche perché secondo me non ha fatto in tempo. Lo sa che rimangono pochi giorni per ucciderlo. Sì, per ucciderlo. Perché loro capiscono tutto. Animali, beh sì, perché l'ultima volta che venuto gli si è praticamente lanciato addosso, quindi ha capito, dice oddio, c'ho poco tempo, si è spalmato addosso, c'ho poco tempo, gli si è buttato addosso cercando guarda il mio culo, gli ha messo in faccia cercando di farlo morire di disgusto che, e di pelo, infatti. Che poi è quello che fanno i gatti, cioè mettono il culo in faccia, esatto. Cioè, proprio... ma no, sì, non sì. È vero, lo fanno, era la faccia quella, no, la faccia, non mi faccia quella faccia, quella non erano fuse, erano scoregge. Vabbè, Pizzi, ce l'hai un brecchetto? Ma sì, certo che ce l'ho un brecchetto, era proprio quello che stavo per fare, E allora ci sentiamo Alice in Chains, eh? Attenzione, e questo è un po' a tema con l'episodio, perché il brano si chiama Down in bello, a hole, bello. Cioè un down in un buco. Esatto, bravo, esatto, bravo. Ma cerca Black Hole Sun, no? Black Hole, che ci sono i microfoni aperti, silenzio. Regia, prendo la linea da Ajax, dove la Ajax. Ajax, scusa. Ma non esiste Ajax. Ma sta zia, è come da Atalanta, è uguale. Ajax, oh, vabbè, prendo la linea da Amsterdam, cucina, dove la Juventus batte Ajax per 1-0, gol di Fanculoschi, Trezeguet. di Inzaghi su tuffo, di Cristiano Ronaldo su assist di Cancelo. Quando siamo praticamente quasi alla fine del primo tempo. Ah no, l'arbitro ha dichiarato l'intervallo, attenzione, quindi colpone di scena, la Juventus ha espugnato, potrebbe insomma fare il risultato, e vabbè, un po' di gufo. Ma noi lo auguriamo Sì, vabbè, ciao ciao, sentiamo il brano. Oh, rientriamo in diretta dopo questo bellissimo brano che ci aiuta a scaldare un po' gli animi di questa notte così fredda e strana, nella quale non sappiamo più di che cosa parlare. Allora cominciamo a parlare di stronzate, non che nelle altre occasioni non lo facciamo. È vero, ma basta parlare di cose intelligenti, infatti, basta parlare di cose serie che arricchiscono la nostra cultura. Merda, parlare di merda, subito. Ad un tratto ti è uscito fuori il Richard Benson che intera. Mi trasforma. Oh, balla! No, ma allora, quello degli anni d'oro. Gli anni buoni. Quando parlava di Malmsteen. Malmsteen, grande chitarrista. Esatto, chitarrista. Chitarrista. Il chitarrista perché... Deve spaventare. Ti devi spaventare! Non mi strillate nelle orecchie. Scusate. No. Che questa cosa è sgradevole, ma... cinema, parliamo di cinema perché sì, assolutamente, perché è stato cinema. Bello passare una serata tra amici. Giusto, a guardare amici. Un film bello che tu dici cazzo che bel film. Dice in chat lobby: non mi riaprite la vena dei Seattle Sound che mi fate ritornare alla mia lontana adolescenza. Vabbè, ma e se invece dico Nadia Cassini, che succede allora? sti cazzi insomma, fondamentalmente sì. Noi ti volevamo bene, ma anche sti cazzi, poi vabbè, se ti... ma soprattutto perché se vogliamo Sound, bene sti cazzi due te ne prendi due dei così almeno uno Tomagni. E niente, eravamo raggruppati e ci siamo detti: dato che questo potrebbe essere l'ultimo film che vediamo con Gusella, esatto, cosa ci vediamo? Chiudiamo in bellezza, esatto, e scegliamo un bellissimo film horror. Che ha scelto lui horror. Perché lui ha insistito: io voglio vedere Le origini del male. Esatto. Perché... ma The Conjuring, Le origini del male? Eh? The Conjuring, gli originali. No, è su quello stile lì, però, cioè quell'impronta lì. Cioè, nel senso, il film inizia con un approccio quasi serio. Cioè, nel senso, è uno di quei quasi film, scientifico, diciamo. È uno dei quei film che racconta praticamente di questo esperimento. Episodio vero, basato praticamente su questa ragazza che ha queste problematiche. Lui, il suo professore, vuole fare un esperimento per dimostrare che alcuni fenomeni legati a lei, insomma, alcune manifestazioni sono dovute da questo ectoplasma, che altro non è che una parte di lei che esce fuori. Ma è quello in cui vanno tutti quanti in quella casa mezzo abbandonata. Ah, bravo, sì, bravo, sì, sì, bravo, l'ho visto. E il film, no, complimenti. No, ma il film. All'inizio era molto bello. All'inizio ci poteva... bello è una parola grossa. Ci poteva sta. All'inizio ci poteva sta. Ma come capita spesso, sti film prende una piega improvvisa. Come lo facciamo finire sto film? Cavolo, a cazzo di cane, no, ma non solo, ma poi il finale proprio. Cioè, chiudi, sì. stacca tutto proprio. Cioè, Gualdi. Cosa volete che vi dica? Allora, no, faccio anche, un breve riassunto. Che se l'ha visto pure lui. Quanto tempo abbiamo? Faccio un breve riassunto. Allora. No, in realtà questo film cominciava cercando di dare un approccio razionale a quello che potrebbe essere il fenomeno del satanismo o comunque delle impossessizzazioni demoniache e delle manifestazioni, diciamo, esoteriche. Dopodiché diventa una minchiata colossale, perché praticamente cerca di trovare una... non una scusa, perché in realtà è anche difficile cercare di capire che cazzo diventa poi. Cioè, alla fine, in questo film c'è il solito demone che la solita setta cerca di risvegliare e finisce nel solito modo. Cioè, morono tutti... mi dispiace, ho spoilerato questo film che so, so che ci devolate tanto per vederlo. Devo allungare le gambe. Ho capito. C'ho male a... con questo finale tipo che alla cliffhanger che ti fa capire che c'è successo qualcosa, perché il demone ci sta ancora, che però nessuno gliene frega un cazzo fondamentalmente. A noi, che soprattutto che l'abbiamo visto, non ce ne può fregare di meno. No, anche perché veramente. Cioè, poi il finale è un po' assurdo, perché c'è questa qua, la posseduta, che in qualche maniera fate tutto per salvare il tizio che alla fine era l'unico che era veramente gentile con lei. E poi però lo incula. Senza volerlo. Ma no, in realtà non... cioè, c'è questa sequenza finale, proprio a 3 secondi, che vuol dire tutto e vuol dire in cazzo, fondamentalmente. Non so se vi ricordate... No, se vuol dire tanto, perché praticamente lui manifesta del fiamme, del fuoco dalle mani, quindi fa vedere che comunque questo demone è passato in lui. Quindi sta cosa praticamente... Io di questo film, che l'ho visto 2-3 anni fa, forse di più, ho un ricordo che all'inizio mi sembrava carino, perché a livello di fotografia di ricostruzione visiva era realistico. 64, mi aveva, esatto, mi aveva abbastanza colpito perché i costumi, sì, le ricostruzioni anche props, eccetera, pellicoloso, molto pellicoloso, esatto, esatto, era molto, molto pellicola, molto super 8. Poi però quando la trama si è sviluppata, se fossi stato al cinema avrei tirato giù Cristi delle Madonne. Si è sviluppata è una parola grossa. Esatto, esatto. Si è inviluppata. A proposito di sviluppata. Esco un attimo all'argomento cinematografico, perché c'è questa notizia che avevamo in scaletta. Ma poi ci rientriamo. Perché io sono talmente curioso di capire una cosa. No, perché questa notizia era nella scaletta. Questa ragazza di 19 anni, che a Glasgow... praticamente si risveglia una mattina portata di corsissima in ospedale dove partorisce, non aveva mai saputo per 9 mesi di essere in gravidanza. Io ho detto, vabbè, ma che forse si è risvegliato dal coma? No. Vado a leggere. Lei praticamente per 9 mesi... Cioè, sono aggruppata mentre stava in coma, allora, io ho pensato questo. No, no, ma magari ha avuto un incidente pochi giorni dopo aver concepito, magari... Però, a parte che, vabbè... Kill Bill ci insegna che, insomma, certe cose succedono, no? Però dico, leggo la notizia... E in realtà questa ragazza praticamente ha portato questo bambino in grembo per tutta la gravidanza senza saperlo, perché fino al giorno prima del travaglio questo feto si era posizionato più in alto del normale e praticamente non aveva dato evidenze visive del fatto, cioè lei non aveva, aveva preso, preso un pochino di peso, ma non si vedeva che... Mortacci mia, quanto esatto, mangio, ma, esatto. Dice, ma io non avevo mai avuto il sospetto, mai avuto sintomi, mai niente. Certo, 9 mesi che già mancano le prestazioni. Esatto, ma 9 mesi di amenorrea, non ti hanno fatto nessun dubbio. Amenorrea a chi? Mortacci, a mamme. Tu, a mamme. Ma poi Travaglio chi è? Il direttore del Fatto Quotidiano? Esatto, esatto. Io, boh, no, quando le cose... quando fate la radio, perché sennò la gente... Certo. No, beh, allora sono cose che succedono. Chi ti paga? Chi ti paga? Il PT. Vabbè, ma comunque è vecchia di 2000 anni. A parte che è vecchia, poi c'è pure una trasmissione... su Sky c'era quella là, mamma, ma non lo sapevo. Sono incinta, ma non sapevo di essere incinta. Ma, sì. A proposito di programmi Sky, oggi con Gualdi stavamo anticipandoci che stiamo per creare un format che è lo spin-off di Sepolti in Casa, che si chiamerà, lo diciamo, Sepolti al bar. Tra parentesi, De Dario. Sì, perché quell'ambiente, voi non siete di Monterotondo, non ci siete, però venite a pellegrinaggio. Ogni perché... settimana sono gli elementi che non c'entrano, esatto, niente. No, ma poi si ammucchiano, non è che si alternano. Esatto. Che continua, comunque, no, allora, lui... quello è un po' come il gioco. Allora, lui comunque... c'è la droga, diventa una droga, secondo me. Cerca di abbellire il locale perché gli passa la vernice sul parquet, mette i rivestimenti. Ma ci ha raccontato una cosa che però non ci poi, mangerò per poi, due mesi. Però poi comincia da qualche mese che sta, diciamo, accatastando roba che compra all'asta, che rimedia, sì, non si sa dove, cose che io purtroppo no, lo cose so. Che prevalentemente non gli serve un cazzo, no, perché, no, insomma, però le paga poco. Paga poco, però tu hai comprato un monitor 4/3 che già ti deve far capire che quel monitor è quantomeno dei 10 anni fa, quantomeno. No, era in 16 decimi quello lì. Non 4/3, guarda che era evoluto, era, voluto, sì. era 37 era, e mezzo, era la in su, era 21 sì. Anonima in alto. Esatto. Cioè, tutte cose che c'è la stampante multifunzione, questo è professionale, costa un sacco di soldi, c'ha 24 aghi. Quindi pensa cioè, quanto si gioca, cioè, tre colori. Scusa, cioè, tre le colori. Stampanti di adesso ce l'hanno gli aghi? No, questa ce li ha. È 24, cioè, mica una. È avanzata. È vero, oggi manco gli hanno gli aghi. E chi è avanzata? Qualcuno è avanzata. Vabbè. Sì, sì. Comunque è vero che l'altro giorno siamo entrati, c'erano dei pannelli cinesi. Ci stanno ancora, Perché sta praticamente quell'angolo, poi diventa sempre, si chiude e lui si incastra, esatto, lì dentro. Esatto. Ma... secondo me diventa un po' come quello là... sempre quell'altra serie televisiva che facevano... Aiuto, non trovo la porta. No, però, tipo quelli degli accumulatori compulsivi, come si chiamava? Sì, quello, se volti in casa. Okay, se volti al bar. Bravo, è la stessa cosa. No, poi tra l'altro oggi ci ha raccontato una cosa per la quale io non so quando ci tornerò. Praticamente ci ha detto che ha usato un prodotto chimico per, diciamo, lucidare il parquet, che ha preso delle esalazioni che ha praticamente contaminato tutto quello che aveva nel banco, nel frigo, cioè delle cose... No, ma assolutamente, è quello che mi domandava anche io mentre vendevo il caffè ieri, fatto, ma tutta questa cosa chimica per terra, io l'ho fatta a casa mia, sono stata una settimana prima di rientrarci, quello ha fatto rientrare la cameriera La mattina stessa alle 7 stava a morire. Vabbè, ma la cameriera è di origine di Chernobyl, non ci fa caso. Vabbè, ah, ok, posso. È già mutato. È di Pripyat, sì, sì. Comunque io per un po' penso che... Chiedo la linea da Ajax, attenzione, chiedo la linea da Ajax, dove l'Amsterdam ha pareggiato 1-1 con gol di Neres. Oh, vedi, vedi, vedi. E ora si incazza magari. Invece, incazziamo, maledetti, vedici a rubare a noi. Comunque, vabbè, bar dove io, se voi siete bar, dintorni e potete venire qui, venite a pellegrinare dentro, esatto, questo bar. Che, però, Marco, famo che se domani ci mettiamo il caffè da Morena, che è da meglio. Morena, ci troviamo da Morena. Okay. Vai la Morena! Esatto. Allora, ragazzi... Sotto questa luna piena. Ma visto che, scusate, allora, io chiedo scusa per aver... Devi, prima di tutto chiedi scusa, va bene. Chiedo scusa. Per aver deviato dal tema cine-televisivo. No, vabbè. Torniamo ai nostri ambiti cinematografici di intrattenimento... E se vuoi puoi essere libero di... Visto solo quello. E ho iniziato a vedere Spider-Man un altro universo, una cosa del genere. Quello fatto in animazione in CG. Tu? Non so se... Sì, senza c'ho... di me? Ti ho mandato pure il torrent. Non l'ho visto. Però poi sì, te l'ho mandato, lo mando. Io ti mando le cose, tu non mi caghi. E allora c'ho da pure fare. Il Pizzi c'è diventato Capitan Harlock della cinematografia qua. Del cinematografo. Tra l'altro adesso abbiamo installato il Plex anche sul PC di Pizzi. Quindi adesso possiamo fare il mirroring tra PC e... Ah, no? Sì, sì, fantastico, fantastico. Bellissimo. Ragazzi, ho scoperto sta tecnologia che adesso riesco a vedere quello che ho sul computer sul mio televisore. Bellissimo, bellissimo, è una cosa che non pensavo neanche che si potesse fare. Vedi, l'ho provato e funziona pure, pensate. Vedi, no? Vedi il Miracast, questo sconosciuto. No, che Miracast, sempre col Fire Stick, tutto quanto insieme. Vabbè, sì, ma il protocollo usato da... No, questi protocolli, no, no, no, cazzo, il protocollo, il protocollo, okay. Lascia passare a 38. Ecco, ok. Comunque io a un certo punto, sapete che vi dico, perché poi dopo, cioè, bisogna anche essere persone serie, ponderate e soprattutto attente al senso della trasmissione. Spazio, ultima frontiera, questi sono i viaggi dell'astronave OGM, OGM che va verso non so dove. Va bene, torniamo a parlare di Discovery perché oramai è quasi un po' una tradizione, anzi ma quasi, ragazzi, ma quasi. Anzi ragazzi, manca... Lasciamo la parola. Attenzione, vi sto per dire una cosa, attenzione, siete pronti? Attenzione, sentite che botto, mancano due puntate. Attenzione. Spazio alla musica, perché questo è proprio un momento... E non mi puoi coprire il crescendo! Lo so, però non è che potevo star zitto tutto il tempo, ma noi abbiamo un contributo, perché giustamente l'ultima puntata, quella che c'è stata venerdì scorso, ha generato, insomma, delle reazioni, come posso dire, come le posso definire, delle reazioni... Madoschi, che insomma cose un po' particolari, e quindi beccatevi questa Discovery, nel quale ho visto alcune cose che mi hanno lasciato un attimo un po' perplesso. Va bene, la prima cosa, Michael che vuole senza andare a presentarlo, così cosa sta succedendo su quell'astronave anomala della sezione 51, secondo lei può esserci qualcosa? Praticamente tutti avevano capito che era una trappola, che si andava, che ne so, se non lo sai te. Ciononostante, lei è partita convinta di trovare chissà che cosa. Cioè, era talmente evidente e banale che ci fosse un'imboscata. Non so neanche perché hanno dovuto fare sta sceneggiata. Vabbè, e questo mettiamoci un pietrino sopra. Poi arriviamo a Tenavik, che si trova su Boret, quel pianeta Klingon dove c'è il monastero dove custodiscono i cristalli del tempo. Si presenta Pike bello, bello pimpante. Tenavik dice a Pike: tu qua non puoi neanche entrare, tu morirai, prova a avvicinarti, ti taglio la testa. Nessuno è mai riuscito a prendere un cristallo, nessuno lo dovrà mai prendere, nessuno potrà mai prenderlo. Cioè proprio gli era detti tutti i colori, ormai, cioè, ero quasi lì pensare che lo ammazzassi direttamente. E invece, due minuti dopo, neanche, sono lì che chiacchierano amabilmente a tarallucce vino e si dicono quattro fregnacce, belli contenti, tutti tranquilli. Ecco, quello è il cristallo, prova a prenderlo, vedi se ci riesci te lo porti via, se non ci riesci rimani qua. Prova a prenderlo e vedrai cosa succede. Prova e cosa succede? Vede il suo futuro e quindi ci ricolleghiamo, apretta parentesi, ci ricolleghiamo a il Pike che tutti conosciamo, cioè con l'incidente che l'ha reso paralizzato, che va dentro il suo seggiolino con la lucina che fa solo yes no, siamo nel 2200 e c'è la sintesi vocale, si guarda senza bisogno di avere gli occhi, si parla con la mente e niente, lo ficcano in un carrettino con una lampadina che se fa un solo lampeggio vuol dire sì, due lampeggi vuol dire no, come praticamente nel 1940. Questo va bene, non lo capirò mai, non l'avevo neanche capito all'epoca, voglio dire, siamo veramente a velocità curvatura con tutte le tecnologie più imponenti del mondo e va a finire su una carrozzina con una lampadina, ma andate a cagare. Comunque vede il suo futuro e lo vediamo anche noi, cosa succede nel suo futuro, che lui c'è un combattimento, c'è un'astronave che distrugge la sua, chiama una tizia, venga via, quella non si muove, lui accorre, va per cercare di salvarla, esplosione e si rovina, poi si vede sulla sua carrozzina, perfetto, e lui ha visto il suo futuro e il Navic, hai visto cosa succede in questo futuro, sarà inevitabile, se prendi quel cristallo ti succederà quello che vedi lì, però io ho visto e tutti abbiamo visto che lui cercava di salvare una, che quando è esploso tutto, quell'una si è accappottata ed era lì stecchita morta, quindi era totalmente inutile che andasse a salvarla perché sarebbe morta sia lei e lui praticamente quasi morto, di conseguenza lui ha visto il suo futuro, quando sarà quel momento che capiterà non andrà a salvarla, tanto muore stecchita lo stesso, che cacchio la vai a salvare a fare, quindi vattene e salvati. Quindi questa storia che il futuro non potrà essere cambiato, ma se tu lo conosci mi sembra un pochino difficile, a meno che tu non dimentichi quello che hai visto e non ti ricordi più niente, e allora quando arriverà quel momento tu farei la stessa identica cosa. Ma se non hai perso la memoria, da quello che si vede e da quello che si intuisce dopo, lui deve portare questo fardello e se lo ricorda bene, di conseguenza non vedo il motivo per il quale non possa cambiare, e quindi avrebbero potuto semplicemente far vedere che la cosa che accadeva era inevitabile, invece è evitabile, basta che non vada là a salvare quella che tanto muore comunque, quindi se almeno l'avesse salvata avrebbe avuto uno scopo, anche noi che lo abbiamo visto abbiamo detto vabbè, ha salvato quella lì e si è sacrificato, e che sono morti tutte e due, quindi praticamente sono morti, lei è morta sicura e lui no, quindi che senso ha? Poi a me quando si gioca col tempo bisogna sempre vederlo da dei punti di vista che non riesco a comprendere, cioè vabbè, detto questo, l'episodio comunque devo dire che mi è piaciuto e ci siamo ricollegati sempre di più agli accadimenti che tutti noi conosciamo di Pike e quindi alla serie classica, sebbene diciamo il vestiario, le tecnologie sembrano tutte diverse. Con questo vi saluto e saluto tutti gli ascoltatori, ciao ciao. Bene, questo era Davide Gatti che ci ha tenuto insomma a mandarci il suo contributo. Ci ha tenuto a mandarci, come dargli torto contributo tra l'altro. Scusate, Marco, okay. Pike vuole dire qualcosa. Esatto. Vabbè. Sì, il problema è che lui non può voler dire qualcosa, lui può solo rispondere. Quindi fagli una domanda. Studio lavori. Errore. Gli si rompe la testa. Questo è stronzo, però. devi fare una domanda col sì o col no. Allora, io premettendo che io condivido in buona parte insomma quello che ha detto Davide, io andrei con ordine. Andiamo con ordine. Allora, il problema è che qui si rischia di quello che è successo un po' nella prima stagione, che nel finale qui si vede proprio la merda che esce dai tubi tra le dita delle mani, proprio. Una cosa, cioè, il pericolo è dietro l'angolo, perché quello che abbiamo capito è che sti sceneggiatori per scrivere le cose sul tempo, ragazzi, devi avere i coglioni grossi così, invece di farceli. Esatto, e quando scrivete le cose sul tempo e non ci avete capito un cazzo, fate solo un gran casino. Ma detto questo, partiamo da Pike, che sa che vabbè, ci sarebbe da parlare del fatto di Barnum che va verso Barnum che va verso l'astronave della sezione 31, ma lì vabbè, lasciamo perdere, che insomma sì, perché la domanda è: lei si accorge di una cosa che tutti gli altri non se ne accorgono, tutti stupidi tranne che lei. Giustamente, visto che sono tutti stupidi, ce la sono lei. Vabbè, no, e giustamente Controllo sapeva bene che ci sarebbe andata sola. Ma sì, ma era un trabocchettone, ma, cioè, ma solo, senso, per lei. Ma l'avevano capito tutti, insomma. Cioè. Ma lei è l'unica che se ne accorge perché. Come si chiama? Aiuto, il Klingumano, mi scordo sempre il nome. Il nome umano di Vox. Ash Tyler. Le dà lo smartphone. Esatto, lo smartphone della sezione 31. Ma qui dalla sezione 31 invece non se ne sono accorti, che devono fare rapporto e nessuno sa. Oh, ma quello perché ha fatto? Non ce n'è rimasto nessuno dalla sezione 31, secondo me. Sì, no, no, perché no. Controllo li ha 51 navi dopo alla fine. Ma sono tutte di controllo. No, vabbè, ma questo non lo sappiamo. Sì, sono tutte di controllo, però non è che sono state distrutte e ricostruite. No, tutto il personale probabilmente è stato sparato fuori dalle navi. Probabilmente anche tipo quello, insomma. Ma comunque, vabbè, lei va solo tra bocchettone, lo chiede a Saru, Saru posso andare? Sì, sì, vai, tanto a me cazzo me frega. Tanto non c'ho più, poi la fa come cazzo te fare. Ma il succo della questione è che questi devono comunque ritrovare un modo per ricontattare o riprendere contatto con la madre di Michael che sta nel futuro prossimo. E l'unica cosa che si può fare è trovarsi cazzo dei cristalli temporali, che io quando l'ho sentiti, cioè, mi veniva da ridere, perché, cioè, è un po' come veramente la fantascienza banalizzata, quella degli anni 50, no? Cristalli temporali, il cristallo temporale, perché la vita è una tempesta, ma prenderla in culo è un attimo, è un lampo, è un attimo, ok, vabbè. Comunque, in realtà i cristalli temporali su Star Trek sono apparsi diverse volte, quindi se, diciamo, li giustifichiamo col fatto che loro con questa cosa se la sono studiata. Poi che succede? Che questi cristalli temporali sono giustamente custoditi da sto monastero Klingon di monaci cattivissimi che non ti fanno entrare. No, aspetta, sono cattivissimi, però sono giustissimi, perché proprio loro potrebbero usare questi cristalli per l'impero Klingon, ma non lo fanno, non perché lo fa, sanno che è una cosa pericolosa. Quindi... perché lo dicono, i cristalli stanno qui, ricordiamo che i Klingon vanno in giro con una sola gondola di curvatura dentro lo scafo della nave, perché non gliene frega un cazzo di quello che succede. No, ma esatto, io voglio dire, però nel subspazio ci fanno il bacio, riflettiamo su questo senso, sul profondo senso della vita. Se l'universo assegna il controllo di un'entità così potente come i cristalli del tempo a un popolo guerrafondaio, cioè, che ce l'ha del DNA, esatto, e beccano fortunatamente gli unici stronzi che invece sono giù. No, raga, qua non scherziamo queste cose, sono stronzi sì, ma coglioni no, esatto. Vabbè, comunque questo va giù, gli dice: a me mi serve il cristallo del proprio. Sei matto, ma cristallo temporale, stacco le palle, c'è un culo così per cristallo temporale, non solo non è mai uscito da lì e ne mai uscirà, e su questo c'ha ragione Gatti, perché questi te creano sto hype con sti tizi che dice minchia, cioè, porca puttana, veramente è così, roba che in confronto ruramente è una passeggiata di salute, esatto, tempo 3 minuti stanno a chiacchierare, se vanno pure bene e se vanno pure in cicchetto, esatto, se vanno bene. Poi giustamente questo è il cristallo, vedi il cristallo, lui vede il cristallo, poi dopo aver visto quello che dice, giustamente ha raccontato Gatti, il problema è il tizio, il Klingon gli dice: oh, se tu il cristallo lo posi, cioè, nel senso, non lo amici prendi, come prima, amici come prima, e il tuo futuro è, fa come cazzo ti pare, poi fa quello che ti pare, è fluido, potresti anche cambiare se te lo prendi, e quel futuro lì non puoi più cambiare, accetti che quello che succede lo devi, questa me la devi spiegare, cioè, nel senso, tu non puoi di una cazzata del genere su una serie televisiva basata sullo spazio e il tempo da sempre, mi dici una cosa del genere che è una cazzata. Era l'unico modo che avevano per, ed è la classica, il classico tentativo con il con i dialoghi di risolvere degli anacronismi, come era successo all'inizio dicendo no, l'Enterprise è parcheggiata perché siamo a leva con i cazzo di display olografici perché ci hanno mandato in bug tutta la nave, no? Quello è stato un tentativo maldestro di giustificare perché questi display olografici che abbiamo visto in astronavi più vecchie poi sull'Enterprise non ci saranno. Qui più o meno la stessa cosa, l'unico modo per giustificare il fatto che Pike, pur sapendo che avrebbe fatto una brutta fine perché è scritta, visto che siamo nel passato, rispetto a una serie di eventi che abbiamo già visto, che quindi non si possono cambiare, allora l'unico modo era un espediente narrativo per dire: oh, io ti do il cristallo che ti farà vedere cosa ti succederà, ma pure se lo vedi te lo devi beccare lo stesso. Ho capito, quello che dici te è giusto, anzi sicuramente è probabilmente così, ma non c'ha comunque senso. No, che è ovvio che non ha senso. Però come dice Davide, se avesse comunque fatto questa cosa, cioè magari lui con il suo sacrificio avesse salvato tutto l'equipaggio della nave, cosa che in realtà si diceva, perché nel vecchio canon, nei vecchi wiki c'era appunto questa cosa che lui, per salvare l'equipaggio da un'avaria, praticamente faceva, si chiudeva dentro sta stanza, salvava tutti quanti ma rimaneva secco lui. se avesse... un po' come ha fatto anche Spock. Esatto, se avesse fatto questa cosa salvando anche la tizia magari che stava lì, ma facendo capire che il suo intervento lì dentro ha salvato tutto l'equipaggio, probabilmente avrebbe avuto un senso. Cioè, tu lo sai che se fai questa cosa morirai sicuramente, perché morrai. Tu prendi questo cristallo, la linea temporale che percorrerai ti porterà inevitabilmente su quella rotta. Se tu non la prendi, no, perché probabilmente magari verrà distrutta da controllo per altri motivi. Però il suo che poi diciamo, posso dire una cosa, cioè, i sceneggiatori avevano proprio le fregolese mani, perché già dalla puntata prima. Che glielo stavano a dire a posto Pike del cazzo, sì, ma te potrei dire come finisci, ma non te piacerebbe, ma non te lo dico, ma tanto no. Te lo dicono dopo. Sì, vabbè, una cosa. Poi tutto questo per farci vedere una scena di flash forward con dai, è veramente una tristezza, mentre gli si squaglia la faccia. Esatto, perché poi non gli si squaglia la faccia, no, tra l'altro sì, però lui c'ha la faccia bruciata. Sì, esatto. Ma non gli si continua squagliata. Vabbè, però ci domanda Pier G, questo ci siamo chiesti un po' tutti e ci siamo già dati una risposta, perché ci chiede: ma il figlio dei Klingon, se è cresciuto così in fretta, perché ricordiamo lui è stato portato da neonato lì al monastero pochi mesi prima, tipo sei puntate prima alla prima puntata della seconda stagione, e lo ritroviamo adulto adulto fatto e finito, e sostanzialmente monaco responsabile di questi cristalli. Oh, onestamente la risposta che ci siamo dati è che finché si tiene un cristallo del tempo nel culo non invecchia. Può succedere qualsiasi cosa. No, onestamente, raga, di tutte le stronzate questa è veramente la cosa sulla quale io non mi sono posto proprio il problema, perché se veramente sei uno a contatto con i cristalli temporali può succedere. No, invece volevo far poi notare... giustifica tutto, cioè quello non sarebbe... Ma il fatto è che è tecnicamente una cosa a cui non frega un cazzo a nessuno. Esatto, cioè è una cosa super... Io volevo far notare... superflua. Su questa serie è proprio superficiale il modo in cui approcciano questa questione qui, che è veramente terribile. Poi a me fa ridere il tizio che gli dice: papà, è che io ti rendo onore. Cioè, alla fine ancora toccato, vabbè, ok, ha visto una cosa bruttissima, poi lui si rialza con la banalizzazione della flotta stellare. Noi della flotta stellare lo pigliamo in culo con amore e col sorriso e devozione, no? E vabbè, comunque, vabbè, sta puntata è la più debole. Io volevo far notare una cosa, non so se ci avete fatto caso. Anche in questa scena c'è una bellissima scena salva budget di circa un minuto, ambientata nel corridoio della... I dialoghi salvabaggio sono quelli che durano 1, 2, 3 minuti e si svolgono tutti durante il passeggio nel corridoio, no? Però al di là di quello, anche le scene nel monastero. Io quando ho visto la scenografia di questo monastero dico: ma l'hanno riciclata da qualche film fantasy degli anni 80? Perché veramente è completamente fuori contesto. Anche di quello che può essere, diciamo, l'architettura canon o non canon dei Klingon. Quello sembrava un palazzo medievale di un film anni 80 veramente scadente. Però vabbè, che probabilmente è quello che si meritano i monaci klingoniani. Come si dice, i klingoniani perché klingoniani, noi siamo affezionati alla serie classica. Certo. Beh, vabbè, ma in realtà non è che si capisce chi ha costruito sto monastero. Lei dice ci sta lì da quando il pianeta era giovane, quindi tutto è un bordo in cazzo. Comunque, gli anacronismi sono diventati, come giustamente ci fa notare Davide nel suo contributo, gli anacronismi sono diventati veramente insopportabili, perché in un contesto in cui si resuscita la gente come fosse la norma, la prassi, il fatto che Pike viene chiuso uno. No, beh, nel senso, adesso uno, però se ci pensi nell'arco della narrativa di Star Trek succede di tutto, poi c'è la rete di micelio, il motore a score, eccetera. Cosa succede a un povero Cristo che subisce un incidente? Peraltro vi ricordo che non ce n'è di potenziati sull'astronave, non è che ce n'è stata una sola, c'è stata Aerea, c'è la copilota, eccetera. L'unico sfigato che dopo essersi ustionato deve finire dentro uno scafandro è Pike. Perché dobbiamo... Era anacronistico già negli anni 60, perché quando quelle serie è stata girata, io capisco che i limiti di capacità di rappresentazione della situazione erano tali lì per una cui... questione del budget proprio lì. Però il fatto... Sì. Allora, mi vuoi dire che è rimasto paralizzato e sta nello scafandro? Va bene, ma perché non gli devi dare modo... In una società tecnologica dove i computer sono molto evoluti, perché non può avere la possibilità di comunicare con l'esterno? C'ha solo due lampadine rossa e verde. No, non erano manco rossa e verde, era un lampeggio e sì, due lampeggini. Sì, sì, era per dire, no, nel senso, perché gli hanno dovuto dare un connotato così ridicolo? Forse perché all'epoca non si aspettavano che nessuno avrebbe ripreso il personaggio di Pacchi in un prequel e allora non hanno dato peso alla cosa. Oggi però a quel punto... Tanto non sei obbligato. Pike non piaceva. Hai preso di... Pike non piaceva. È piaciuto non dopo. Non piaceva Shatner. No, non piaceva perché. Ma Shatner non c'era quando c'era. No, no, nel senso che la puntata pilota era completamente rifatta. Sì, diciamo, sì, no, beh, no, fu fatta, ma se voi l'avete vista, era fatta con 5.000 lire, gli hanno dato il resto. Esatto. No, però dico, oggi si sono presi delle libertà molto più ampie. In questo caso, non dico che devi decontestualizzare il, diciamo, il futuro disabile di Pike, però voglio dire, non lo rendere così grottesco, non lo rendere così inaccettabile, però cioè, non avevano scelta, cioè, poi ce lamentiamo quando cambiano troppo, quando cambiano troppo. No, Marco, però il solito discorso degli anacronismi che li metti quando non è necessario. Niente, nessuno ti obbligava a mettere, che ne so, gli schermi olografici in stile Guerre Stellari. Quello purtroppo li hai messi, è hai altro, giustificato la cosa, so, dicendo no, poi li leviamo perché danneggiano i sistemi. Quello è l'errore, che ha fatto il vecchio sceneggiatore, che a cui stanno adesso cercando maldestramente, ma che vuoi fare? Ormai ce l'hanno fatto il danno. Comunque, oggettivamente, andiamo sempre al discorso, il problema ce l'avevano negli anni 60, non è il problema di oggi. Cioè, tu stai a viaggiare a anni luce dalla Terra, a velocità curvatura, è impensabile che ci siano gli olografici. Cioè, era una cazzata prima, purtroppo, per limiti oggettivi. Io oggi lo accetto sta cosa. Sì, però se sai che bene o male nella se tu mi facevi Enterprise i pulsantoni come faceva Spock, la bestemmiamo, cioè, nel senso, senti, ma a proposito di Enterprise arriviamo alla notizia interessante, perché arriva la cavalleria la prossima puntata. La vedremo? Dovrebbe. Anche perché i piani sono di farsi esplodere la Discovery. Arriva la cavalla. Secondo me non la fanno esplodere la Discovery, però il piano è quello, cioè il piano comunque è quello. Molto probabilmente quello che succederà è innanzitutto la prossima puntata ritornerà il personaggio di Po, che è quella tizia che è la principessa del pianeta che ricicla il delirio. Lo vedi. Comunque belli quei quattro cortometraggi, in un modo o nell'altro l'hanno incastrati tutti, ne manca solo uno da incastrare, e che è quello del futuro, è quello finale, ma manca quello di Mad, ma Mad sti cazzi, era quello che era riempitivo del riempitivo. Io sono convinto a questo punto che sì, il finale che ci si prospetta davanti è banalmente immaginabile, cioè che la Discovery verrà utilizzata per... Che Discovery vince. Discovery c'ha poi dentro l'intelligenza artificiale. È la IA che troviamo nel mini episodio, nel web episodio di cui parlavamo prima, potrebbe essere controllo che si è evoluto un'ulteriore volta. No, quelle sono quelle, la sfera che si è la sfera, giusto, la sfera. È vero, sfera. E quindi magari la mandano nel futuro per evolversi e loro devono proteggere, poi tornare nel passato e combattere contro loro. Devono proteggere questi dati. L'unica maniera per proteggere questi dati farli evolvere è mandare i dati nel futuro. Quindi probabilmente l'unico modo che sono riusciti mandando la nave nel futuro, in qualche modo. Poi vedremo in che modo. Però, insomma, questo ci sta. Così come è probabile che stiamo assistendo alla protogenesi dei Borg, perché insomma è chiaro che i riferimenti sono palesi, ma anche... Aspetta, i Borg che se non ricordo male arrivano dal quadrante Delta? Sì. Probabilmente da mo che ci sono, non hanno mai incontrato la federazione perché erano troppo lontani. Ma tu devi dare tempo alla narrativa di svilupparsi. Nel senso, non è che la genesi, i Borg sicuramente in quel momento come civiltà già esistono. Stai ragionando in termini tridimensionali, non quadrimensionali, mio caro amico. Marti, tu non pensi quadrimensionalmente? Sì, quello è il problema, cioè nel senso che secondo me comunque lì è l'incipit di un qualcosa che poi succederà nel passato, o in qualche maniera verrà spedito nel passato. Vediamo, perché potrebbe anche essere tutto un inganno, cioè nel senso ci stanno a prendere per culo con riferimenti. Perché Control è una IA individuale, mentre invece Borg sono un'intelligenza collettiva, non lo so. Ma è la necessaria evoluzione. Però cioè... se tutto si plasma... E tutto trae origine dalle disgrazie che hanno fatto in due stagioni questi dei Discovery, mortacci loro, cioè. I porta sfiga della linea di tutto il continuum. Beh, certo, dove c'è Michael c'è disgrazia e devastazione. Questo è chiaro. Porta sfiga, forse anche per quello per cui Spock poi non la cita più, perché porta sfiga, un po' come Angela Lansbury. Doveva lemore qualcuno. Comunque oggi hanno pubblicato aspetta, visto che la foto di dire, Spock senza barba. Ecco, io ti volevo fare proprio una domanda in merito a questo. Ma secondo voi Spock, che è la sintesi della ratio, del raziocinio e della logica, perché non si è ancora fatto la cazzo de barba? Però hanno paura che sembra troppo giovane? Ma lui è troppo giovane. No, ma se la farà l'ultima puntata. No, forse vabbè, ma quella è più una scelta stilistica che... Cioè, scusa, tu hai mai visto vulcaniani con la barba prima di Spock? Aspetta, sì. Sì, il fratello sì, di sì. Beh, Saru, Cyborg. Dai, vabbè, che non a caso era fratello de Era Spock. Guarda un po', è di famiglia. No, ma secondo me. E comunque quel film è stato rinnegato. Poi dopo l'hanno come dire, in qualche modo rimesso nel canon, ma era stato rinnegato per tipo 20 anni. Era veramente brutto. Un apocrifo, però non è. Tra, sì, tra l'altro, per anni è stato soltanto rotta verso l'ignoto. Non aveva neanche il sottotitolo Star Trek. Ma poi adesso invece no. Quindi praticamente, ma comunque ci sono quelli vulcagnani, ma quelli perché non se la tagliano, perché se, sì, non è che non c'hanno la barba, non è che non gli cresce, però proprio perché sono ordinati per, ma in quel momento lui come è come il fatto che The Next Generation ha sdoganato il fatto che non sono tutti mori, cioè nel senso ci stanno pure i negri, ci stanno i biondi, ci stanno, quindi cioè, c'è Tuvok appunto, c'era Tuvok, l'unico, fa una bella fine Tuvok, c'era l'unica, ma poi viene corretta quel finale, cioè l'unica, sì, non so l'unica dove, Spock, no, finale, perché poi lo cambiano, cioè lui torna indietro, quindi cambia il futuro, quindi cambia tutto il presente, e c'è quell'altra vulcaniana, Savik, che è l'unica vulcaniana con i capelli lunghi mossi, la figa, non so se vai, ricordate, beh, era una giovanissima sì, come sì, si chiama la attrice, dice col cazzo che mi tagli i capelli, piuttosto faccio una pompa al regista, e lì è venuto fuori il capello lungo, cioè, è venuto il regista lì. È venuto anche il regista, esatto. Vabbè, comunque secondo me il discorso della barba di Spock è un modo per, cioè, per tenere attiva pure la già, ma stavo tutti a dire, era Kirstie Alley, era Kirstie Alley da giovane, però c'è stata alla fine. Comunque vabbè, tutti i problemi secondo me sono ben altri. Adesso ci sono questi due episodi finali in cui si spiegherà tutto, dove io spero detto, lui si spiegano tutto, io spero ma in questo Lorel perché mo è viola? Ma sempre è stata mezza violacea, Chiara. Poi era viola quasi lì. No, poi è proprio blu. Cioè, non viola, è proprio blu. Blu, forse sì. È blu. Cioè. E in effetti sono i capelli lunghi. Perché io all'inizio ho pensato, forse è la luce di inquadratura. No, no. Poi quando lei tocca la mano di lui, cioè lei c'ha la mano blu. Sì. Cioè è blu, cazzo. Cioè. Ma perché è blu? Forse perché diventa la cancelliera e si dipinge di blu. Che cazzo ne so, cioè, balla a sapere, insomma. Vabbè. Comunque, vabbè. Poi ci sono tante altre storie di cui racconteremo. Io ricontinuo a ribadire che fino adesso, comunque, a parte queste scivolate dei tre quarti, la serie rispetto alla prima stagione in particolare, ma anche senza la prima stagione, comunque a me la serie è piaciuta. Spero in un finale degno, spero anche in un finale epico, spero che gli diano quel tocco epico anche con l'Enterprise, che è un po' diversa all'Enterprise. Guarda, io credo che tutto sappiamo, dipenderà però, da chi prenderà la regia degli ultimi due episodi, perché abbiamo ormai capito una cosa, sapete, che Olatunde o Tsunami, che non so pronunciare, è il regista, diciamo, più bravo della nuova generazione, e gli episodi diretti da lui sono i più belli. Secondo me sai chi è l'ultimo? No, Frakes è rimasto all'anni 90 con la regia, non si deve permettere. No, anzi, è rimasto pure abbastanza dinamico rispetto a... Boh, sinceramente ho trovato i suoi episodi più statici in assoluto. Però più movimento anche dei più camera, mal di mare, so. Perché sai che c'è, loro hanno fatto... Allora, gli piace muovere le camere allora, a questi. Cioè, sì, c'è un discorso, sì. No, secondo me c'è un discorso che praticamente voi sapete che per le licenze eccetera eccetera in alcune per vari motivi sono dovuti passare attraverso l'egida di Bad Robot, che con Paramount possiede i diritti di alcune delle serie, no? Quindi sostanzialmente loro hanno potuto fare Discovery utilizzando i diritti dell'universo Kelvin o anzi del loro chiamano Nexus, e quindi evidentemente per contratto devono mettere lens flare quando non servono un cazzo. No. E se ci pensi, è pieno di inquadrature con le spalle. Vabbè, oramai va de moda. Ma ormai sarebbe pure passato de moda. È come se fa il ballet time adesso. Non però pure più. Su quell'altro telefilm che guardiamo noi, quello come si chiama lì? Dai, sempre quello spaziale con Marte alla Terra. Ah, The Expanse. Pure lì ci sono lens flare a volte a cazzo de cane. Cioè, oramai è una prassi. È vero che a volte ci sono De Flair che non c'ha, almeno giustizia, nel senso giustifica la fonte di luce. Allora, se tu me li spari in un ambiente aperto di un certo tipo mi sta bene, ma quando me li spari in plancia mi danno solo fastidio. Lo so, quella oramai è un'estetica. Ogni tanto sì, mi viene da schivarli, capito? È vero che oramai è una cosa di 8 anni fa, cioè, quindi, cioè, in effetti andate un po' avanti pure su questa cosa, insomma. E George Abrams. Però oggi fai flare di quel tipo con After Effects, ci metti zero. Deve essere per quello, perché costano poco. L'abbiamo fatti pure noi nel trailer. Che facciamo? Mettiamo un po' più di risoluzione. Un po' più di risoluzione. Secondo me metti lens flare, rompi il cazzo. Esatto, ok, a posto. Esatto. Così. Vabbè ragazzi, vabbè, sentite, tocca aspettare venerdì, vedere che piega prendiamo. A Simone gliene fregava molto. Ma secondo te, sì. Allora Simone, se tu ci è sarai, meglio un culo callo in panza o un Klingon callo su Simone, la prossima aspetta, puntata Christopher, vuoi la pizza o la pasta? Vabbè, ok, allora l'ho omogenizzato. Resettalo, resettalo. Comunque, Gusella, okay, se tu la prossima puntata ci sarai, scusatemi, ma poteva, sì, anche, poteva anche fare il Morse, il codice Morse, e parlare col codice Morse. Non ci arriva, non ci arriva, non è troppo stupido. È stupido, sciocco. Vabbè, andiamo verso, insomma, il finale di questa Male, la cosa più bella. Simone, la prossima puntata, se ci sarai ancora, mi raccomando, voglio tanti temi da te, perché voglio che tu sia il protagonista della puntata. Perché è il momento, insomma, con il quale noi ti salutiamo e ti diciamo addio con tristezza e dolore, ma lo stesso. Scusate, ragazzi, però non vorrei dire una cosa: noi stiamo facendo i conti senza l'hostess, nel senso che mi pare ragionevole che noi con lui faremo almeno un altro paio di puntate, a meno che non scappa. Questo è quello che pensi tu, comunque. No, secondo me non ce la facciamo a farlo. Dov'è già tardi. Ah, ma poi scusate, perché io stavo per dire una cazzata, voglio fare un annuncio importantissimo che riguarda ancora, insomma, più noi. Importante. Perché ricordatevi che mercoledì 24 non ci sarà OGM, ve lo dico subito. No, come no? No, proprio OGM non ci sta proprio, non è che non manco io, manca proprio OGM. Manco per il cazzo. Perché guarda, venerdì 24 ci sarà uno speciale. Mercoledì. Se no, mercoledì 24 sarà uno specialone in diretta, gli specialoni di Runtime Radio per i 30 anni dall'uscita dell'ultimo vero film di Indiana Jones. Parleremo di quel film, parleremo di Indiana Jones, parleremo dei nostri ricordi riguardo al nostro professor Jones. Beh, in realtà sarà uno speciale di OGM come gli altri che abbiamo fatto, non è che vuoi farlo proprio estemporaneo. No, è un po' extra, cioè, bene, nel senso che potrebbero intervenire anche persone che OGM gli fa schifo, ma proprio gli fa schifo, quindi per principio, non voglio essere associato a OGM, ma anch'io qualche volta, però. Infatti ogni tanto non vieni, esatto, le volte che non vengo. Detto questo, io vi ricordo sempre di andare su www.rentemradio.it e andare sulla campagna Patreon tramite Runtime anch'io, dateci una mano, ogni tanto, insomma, fa sempre bene. Vi ringrazio a tutti quelli che comunque riescono anche a contribuire in maniera alternativa, ma soprattutto perché ci ascoltate. OGM, ottimisti genericamente mortificati, quindi torno la prossima settimana. Io saluto e ringrazio Marco Gualdi. Ciao. Ti sono bei momenti. Io ringrazio e saluto Walter Sbano, che vi ricordo anch'io di andare a buonanotte. E ringrazio e saluto per la ultima, penultima, terz'ultima volta, chissà chi può dirlo, non lo sappiamo ancora, Simone, anche detto Simone Gusella. Addio, ciao amici, a mai più. Ti stai disperdendo nell'aereo, sei l'ultima energia di te stesso rimasta nell'universo. Ok, 1, 2, 3, ciao! Ciao! Christopher, il gelato al cioccolato o alla vaniglia?